passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare. Caro Parenzo, vicino a me. David? Vicino a me. Dov'è? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano. Parenzo, mi rispondi? Non mi risponde oggi, è incredibile, non mi risponde. Sapore di sale? Anzi, Sapore di mare era un film di Vanzini in cui la protagonista era Isabella Ferrari. Vi faccio sentire un piccolo pezzo di Isabella Ferrari. Prima di farlo dobbiamo essere sicuri di essere pronti. Che sporcaccione che sei diventato, vieni. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle. Isabella Ferrari è protagonista di quel film, un film molto leggero, eccetera eccetera, protagonista anche di tanti film di quel tipo, è protagonista anche in questi giorni di un appello contro Berlusconi, un video appello su Repubblica, sentitelo. È chiaro che in questi anni c'è stato un degrado culturale, morale, etico della società civile italiana, di cui la donna è stata protagonista, e questo degrado è avvenuto attraverso la mercificazione del corpo, dell'immagine. Chiaramente la domanda è come è potuto succedere a più di 20 anni dal femminismo. Com'è possibile che ci ritroviamo una donna ridotta a geisha che dispensa i suoi favori all'uomo che in cambio gli dà delle mance? Leggo da un'intervista pubblicata nel 2001 dal Corriere della Sera, un'intervista alla stessa Isabella Ferrari. Era un periodo, quello prima di diventare un'attrice, diciamo, di tipo diverso da quello che era prima, era un periodo un po' selvaggio, allo sbando, western, ero giovane, non sapevo che cosa volevo fare, sono andata a tentativi, la mia famiglia era a Piacenza e io a Roma da sola, volevo il successo ma lo pagavo con tanta solitudine. Fu scoperta da buon compagni. La mia era solo una presenza, contavano la mia bellezza, i miei capelli lunghi, non mi ricordo nemmeno che cosa facessi, ma credo proprio nulla. Stavo lì. Lei aveva anche una storia con buon compagni, non le era di aiuto? In che senso? Nel senso che lei aveva 15 anni e lui 50, non le dava sicurezza? La differenza di età così grande era il vero motivo dello sbando. Domanda, ma lui era un giocherellone, un giovanilista? Non ho voglia di parlare di buon compagni. Scriva che non ce la faccio. Parenzo. Eccomi, direttorissimo, chiedo umilmente scusa, umilmente. Dove eri finito, scusami, Ero vicino a Palazzo Grazioli e non prendo la linea. Ah, vicino a Palazzo, che stai facendo vicino a Palazzo Grazioli? Dietro Palazzo Grazioli. Beh, adesso non è che devo comunicarle tutti i miei spostamenti. Beh, no, sei dietro Palazzo Grazioli, lo voglio sapere. Ero a recuperare notizie, direttorissimo. Ho visto uscire, ad esempio, un'ora fa, posso dirti questo davvero, in esclusiva assoluta per la Zanzara, Letta. Enrico Letta. Vabbè, che esce da Palazzo Grazioli, Letta, cioè, non mi pare una notizia, non mi pare una notizia clamorosa. No, io te la do, però l'ho visto uscire. Capito. No, era a bordo di una, tra l'altro, di una bellissima macchina, una Maserati, tra l'altro. Questa è la notizia di costume e di colore è questa. Vabbè. Allora, è pari alla notizia di Sallustri sulle guerre puniche dell'82. Sempre campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo. Abbiamo in diretta Luca Barbareschi. Buonasera. Buonasera. Come sta? Che onore. Siamo molto contenti di averla di nuovo con noi qui alla Zanzara. Lei anche ha... eccitati, anche giornalisticamente eccitati. Devi sempre metterla in questo periodo su questi argomenti. Sei già eccitato. Sono giornalisticamente eccitato che ospite del direttorissimo sia oggi Barbareschi, perché è l'uomo del giorno, direttore. Che devo dire? Sei l'uomo del giorno perché la politica si occupa di passaggi, di ritorni, di cambiamenti di idee, di trasformismi. Lei insomma ci ha fatto anche un film, insomma lo sa bene. In realtà insomma il suo eventuale poi smentito ritorno diciamo nel PDL non sarebbe stato una cosa di trasformismo, perché lei è stato eletto col PD. Ma lasciamo questo. Lei dunque smentisce, ci ripeta questa cosa che ha già detto oggi, smentisce che lascia Futura Libertà, è così? Avendo mai affermato il contrario, non serviva anche uno smentita, però si dice volete smentita. No, smentisce le indiscrezioni che sono uscite, mica perché lei l'ha detto. Perché c'è stato un buon tempone che ha deciso di dire che in realtà poi non ha detto neanche così. Qualcuno, non so, il segretario di qualcuno ha fatto un ansia dicendo Barbareschi forse ci auguriamo venga il gruppo di responsabilità. Come gli americani è un thinking, sembra. Sentiamo poco, comunque. Lei, scusi, sentiamo poco, Barbareschi. Lei conferma che resta al momento o a Futura Libertà? Allora, oggi ho spiegato molte cose a Fini che non aveva chiaro. Che ha spiegato a Fini? Beh, il pericolo del trasformismo, di quello che è la nostra posizione, di Fli, anche del polo, di una serie di cose e di dove dobbiamo essere. Lui ha capito certe cose e ne ha preso atto. E lunedì faremo un altro incontro e martedì, insomma, spero avremo chiare molte cose, insomma. Senta, ma il rischio del trasformismo qual era? Che sostanzialmente il Futura Libertà potesse allearsi con chi, per esempio? Con chi è che non si deve mai alleare, secondo lei, Futura Libertà? Noi dobbiamo mantenere la nostra posizione di centrodestra, perché questo è quello che è l'elettorato di Futura Libertà. E dunque, per esempio, Rutelli, con cui siete nel terzo posto? Delle idee. Io sinceramente non sono un fan di Rutelli, perché avete fatto una campagna elettorale due volte con Alemanno, contro Rutelli. Uno deve anche ricordare, anche se poi come tutti dicono, la politica è fatta di doversi un po', però insomma bisogna tener conto di alcune cose, ma per me sono importanti anche capire i pesi che ognuno di noi deve avere, il peso che avrà il FLI, il peso che avrà il LEC, importante, insomma, infatti ho fatto una riunione anche lunga, un casino. Sì. No, ma voglio dire, mentre lei mi sta dicendo una cosa importante, mentre con Casini naturalmente non ha problemi perché è stato più volte col centrodestra, eccetera, eccetera, con Rutelli un problema si pone, secondo lei. Su questo Fini come le ha risposto? Ma siamo andati oltre, in realtà abbiamo parlato più del tutto che sta cercando di concentrarsi su quello che sarà il congresso, le cose, le linee da tenere, come ci interfacciamo con la società civile, come. Cioè non avete parlato insomma Rutelli va bene, quello va bene, quello va male, cioè insomma il Futura Libertà, per esempio, qualcuno dice, Briguglio oggi dice in casi estremi potremmo addirittura accordarci con Sinistra Libertà, con l'Italia dei Valori. Io non sono d'accordo su questo, però all'interno di un partito si discute, si litiga, si incazza, fa parte della normale dialettica, no? poi ognuno può prendere le proprie decisioni a un certo punto, quando ce la fa, fino a quando il trasformismo, c'è la voglia di cambiare troppo forte, allora magari uno poi non ce la fa, può anche decidere di non fare più politica, uno può decidere tante cose, però insomma in questo momento sono serenissimo e tranquillo. Senta, perché è andato ad Arcore? Perché era interessante, innanzitutto non vedevo persone da due anni, mi fa piacere, volevo parlare di vari temi legati alla cultura, alla telecomunicazione, a dei modelli di business che secondo me sono molto importanti per il futuro, su cui non stiamo abbastanza investendo, su quello che secondo me è un meccanismo meritocratico legato alla dignità del lavoro, che in questo momento in Italia sarebbe il vero tema, perché noi non possiamo per... Ma lui le ha chiesto scusi un attimo, Berlusconi, scusa un attimo Parenzo, Berlusconi le ha chiesto di tornare nel PDL? Berlusconi vorrebbe che tutti tornassero nel PDL, come credo normale, come noi di FLI vorremmo che molti venissero nel PDL, non trovo nulla di male che no, per carità, non c'è niente di grave. Voglia D'altronde, ma le ha offerto qualcosa, che ne so, le ha detto, le ha dato qualche assicurazione, non ha offerto un posto, per carità, non sto dicendo questo, le ha dato qualche, insomma, l'ha tentata in qualche modo o no? Ma è ovvio che chiunque, cioè, se si va alle elezioni, ognuno delle guardi, non sentiamo più niente, Barbarischi. Adesso la richiamiamo sul cellulare, perché si sente veramente male. E dunque, probabilmente io non capisco lei, ma soprattutto gli ascoltatori non la capiscono, che è la cosa più importante. La richiamiamo tra un istante. 18:42 800 24 0024. Non capivo niente io, Parenzo. Si sentiva poco. Io vedo tanta libertà e poco futuro, però, qui, Cioè, tanta libertà nel senso che ognuno va un po' per i fatti propri. Cioè, tu dici il fatto stesso di andare a parlare col Berlusconi, porsi il problema, eccetera, è qualcosa che non va. Volevo capire perché si è andato a titolo personale, si è stato chiamato da Berlusconi, sono tanti aspetti interessanti da procurare. Intanto ha detto per esempio che Futura Libertà deve stare nel centrodestra, e dunque Rutelli non c'entra poi tantissimo. Va bene, 800 24 00 24, poi mi dirai la tua anche sulla questione delle donne che protestano, tra cui Isabella Ferrari, roba da matti, sull'uso del corpo delle donne, eccetera. Giorgio da Vicenza, buonasera. Buonasera, dottor Cucciani, come stiamo? Tutto bene, dica. Ecco, niente, io volevo, a parte che è una vita che cerco di mettermi in contatto con voi, non ci riusciamo mai. Comunque, ecco, il discorso di Berlusconi, per me è un discorso che purtroppo sta rovinando un po' l'Italia, perché forse è l'unico uomo che può aiutare l'Italia a uscire dalla crisi, non ce ne sono altri, veramente. E quindi tutto questo accanimento che c'è nei suoi confronti, non riesco a capirlo proprio. Scusi, ma accanimento di chi? Dei giudici? Lei torna sulla vicenda dell'accanimento dei giudici nei suoi confronti? Giudici, personaggi di sinistra che poi non hanno nulla di rappresentanza. Giorgio, insomma, lei sta scoprendo l'acqua calda, cioè parte della sinistra ha in odio Berlusconi. Vabbè, l'abbiamo registrato, lo sappiamo, eccetera. Secondo lei questo qua è il principale problema? Penso che sia, forse è l'unico uomo che può tirar fuori l'Italia. Vabbè, questo lo pensa lei, perché non c'è nessun uomo della provvidenza, però, Giorgio, non è che sia l'unico uomo che può portare l'Italia fuori. Qui gli uomini della provvidenza non ci sono, non esistono. Come, scusi? L'unico che c'è stato, l'hanno messo in croce, poi... Vabbè, ripeto, non esistono gli uomini della provvidenza. Silvio da Milano, buonasera. Sì, buonasera dottor Cucciani. Dica Silvio. Niente, io volevo riallacciarmi un po' a quelle che erano le notizie di oggi relativamente ai fatti del giudice, il PM Boccassini, e l'avviso di garanzia anche al ministro Frattini. C'è la perquisizione al giornale, l'avviso di garanzia a Brigandì, che avrebbe dato le carte al giornale, il membro laico del CSM, e poi Frattini indagato. Allora, c'è un complotto contro il centrodestra? Che cosa? Allora, guardi, io penso semplicemente questo. Chiaramente non voto per il centrodestra, sono notoriamente voto per l'altra parte, però sono un garantista nato, per cui a me sembra di vedere un inasprimento di quella che è la lotta, diciamo, o meglio lo scontro tra istituzioni. Questo non è una cosa bella agli occhi del cittadino, in nessun senso, né di destra né di sinistra né di centro, per cui questa cosa qua è preoccupante, è solo questo che volevo dire. Va bene, grazie Silvio, abbiamo il traffico, poi di nuovo Luca Barbarischi. Ritornerai, lo so, ritornerai. Questa volta non funziona, caro Parenzo. Con Barbarischi non ha funzionato, sembra. Insomma, Barbarischi, Berlusconi, come l'ha tentata per tornare nel PDL? Guarda, abbiamo parlato con molta schiettezza, con molta amicizia, perché ci conosciamo dalla vita, di quelli che sono i temi politici del paese. Lui mi ha dato la sua visione, gli ho detto la mia, poi ci siamo lasciati così, con delle riflessioni su quello che un incarico, una cosa, niente, un, no? Un progetto, ma è ovvio che se uno quando uno offre delle cose, cosa ha offerto, si può dire? Ci sono tanti posti liberi, nel senso, le ho offerto un sottosegretariato. No, ma non abbiamo parlato, non siamo entrati niente neanche nel merito, sinceramente non ha. Lui mi conosce bene. Però ha accennato a qualcosa, no? Ha accennato. Posso, ci sono 11 posti liberi da sottosegretario. Avrà accennato qualcosa, immagino. Altrimenti Abbiamo parlato di quelli. Guardi, io non sono entrato in nessun tipo di trattativa. Mi sono messo a parlare di quello che sono per me dei temi che mi sono cari, che sono indipendenti da quella che è la mia visione la mia posizione politica, perché sì, credo in questo momento sia un tale casino che io vorrei vedere a breve il governo poter fare delle cose che hanno un'incisività, lo spettacolo, la cultura, la telecomunicazione, cioè non si possono fare risparmio, bisogna anche fare investire per far muovere l'economia del paese. Però scusi un attimo, io mi sono fatto una piccola rassegna stampa, nell'ultimo periodo, adesso al netto dei discorsi, e poi non è che voglio estrapolare per forza delle frasi, però ha detto che Berlusconi si deve fare da parte, l'ho paragonato addirittura una volta a Nerone, ha detto che alcuni vostri deputati sono stati comprati durante il voto di fiducia, ha detto che deve andare a casa, bisogna rottamare il berlusconismo, eccetera eccetera. Dopodiché va a trovare Berlusconi, uno che credo, posso dirlo, l'ha detto lei, è il berlusconismo la cosa peggiore, cioè è berlusconismo incarnato da Berlusconi, però è incarnato da Berlusconi, ma lei sa che sono quelli più realisti del re, no? Sono le persone che poi per compiacere al sovrano non hanno il coraggio di fare il contraddittorio, cioè il problema sono quelli che stanno intorno a Berlusconi e non Berlusconi. Io credo che niente, cioè la Russia e Gasparri abbiano fatto più danni a Berlusconi che chiunque altro. Lo penso sinceramente. Ma una volta lei ha detto addirittura che Berlusconi è un vecchio porco? No, non l'ha detto. È impossibile, perché non ho nessun tipo di moralismo, e le assicuro che la cosa che in questo momento mi dà più fastidio è proprio questo tipo di moralismo di ritorno da parte di tutti. E sulle inchieste dei magistrati su Berlusconi, che ne pensa? I magistrati hanno tutti i diritti di fare le inchieste, Berlusconi ha tutti i diritti di difendersi. Siccome ci sono passato anch'io nella vita su dei linciaggi mediatici per quella che potrebbe essere la mia vita privata, che sono stati assolutamente irrilevanti, credo che se la politica si riduce ad attaccare le persone su quello che uno fa a letto come un adulto consenziente, è veramente una cosa Però immagino le inchieste sono legittime, secondo lei sono fondate oppure no? Oppure c'è non sta a me stabilirlo, io sono un deputato della Repubblica o, se preferisce lei, un libero cittadino. I magistrati possono fare quello che vogliono, Berlusconi ha il diritto di difendersi, ma non penso, siccome sento parlare di foto che erano pubblicate, se io vedo uscire una foto pubblicata di Berlusconi sarò profondamente offeso come italiano, perché penso che non è così che vada gestita la cosa pubblica, non vada gestita. Senta, ma il diffondersi di queste notizie private, come dice lei, secondo lei un po' di responsabilità i magistrati ce l'hanno in questa diffusione se uno va a fare non so, delle perquisizioni e non vuole che escano le notizie in questo paese. Forse ci dimentichiamo che le notizie importanti non sono mai uscite, se vuole le faccio l'elenco: strage di Bologna, strage di Piazza Fontana, e vado avanti, centinaio di orrori italiani. Non è uscita una notizia, una foto, una trasmissione. Però quando si vuole ti vengono anche a registrare quello che hai fatto in casa, ti portano le macchine fotografiche. Lei sa bene che le foto scattate e le registrazioni non sono state fatte da telefonini, ma da apparecchi che costano più di 20-25 mila euro l'uno. Allora qui stiamo parlando di una cosa molto grave. Cioè che c'è, cosa stiamo c'è parlando dietro? Del fatto che c'è una... cioè che nessuno di noi è più libero nella propria vita privata, siccome sono un non artista, ho capito, scusi, cioè lei dice che gli investigatori hanno fatto delle foto dentro la casa di Berlusconi, questo dice? Probabile, ma se usciranno qualcuno le ha fatte. Ma magari, le ragazze le hanno scattate. Guardi, sono queste notizie che mi sono date certe, le cose usate sia per la registrazione non sono cose da non professionali. Cioè quelle dentro casa di Berlusconi? Sono cose da professionisti. Ma nessuno ha intercettato dentro casa di Berlusconi. Aspetta. La cosa più grave. Mi do questa notizia. Non è... Aspetta. Posso dirle? Prego. La cosa, se uno volesse essere polemico con Berlusconi, è sul fatto che lui mette a repentaglio la sicurezza sua, prima di tutto, perché è il Presidente del Consiglio, e quindi la sicurezza anche nazionale, perché è un Presidente del Consiglio. No, questo è vero. Questo secondo me è il tema dove uno dovrebbe dire: caro Presidente Berlusconi, fai attenzione, porca miseria, perché rappresenti l'Italia, per cui non può essere messo a rischio. Però lei dice che ci sono all'interno foto fatte all'interno da professionisti, questo è quello che le hanno riferito. Con macchine professionali. Cioè con strumenti che sono usati per lo spionaggio. Allora, questo secondo me è molto grave. Ho capito. Senta, io voglio vivere in un paese dove a casa mia con adulti consenzienti faccio quello che voglio. Ma secondo lei sono stati magistrati a far fare queste foto oppure sono arrivate ai magistrati? Mi piacerebbe saperlo, guarda, se lo sapessi glielo direi. Senta, ma è vero che lei vuole lasciare la Camera? Beh, diciamo, questo tipo di politica fatta di ricatti, di smerdamenti, di cose, di politica alta, o raramente di politica alta, mi dà abbastanza fastidio. E dunque si dimetterà a breve? Eh? Si dimetterà a breve? Ma ci ho pensato tante volte, perché poi uno fa fatica in cuor suo. Io ci credo in questa avventura, ci credo e voglio battermi fino in fondo. Future Libertà, io non è una creatura che la giudico proprio mia, partorita dalla mia testa insieme ad altri, ma che ho vissuto in prima persona, perché sinceramente voglio una battaglia, ma voglio una battaglia di politica alta. Mi piacerebbe un giorno vedere un Parlamento come quello americano, dove pur essendo un imperialista, pur essendo un presidente di sinistra, parlano di meritocrazia, di dignità del lavoro. Vede, qualcuno, scusi, le interrompo, qualcuno ha detto che maliziosamente, che siccome se lei si dimettesse subentrerebbe un, diciamo, un berlusconiano doc, allora la cosa potrebbe indirettamente favorire Berlusconi, ma non penso che sia questo il suo obiettivo, insomma, no. No, ma non, poi guardi, non cambia nulla, non è un voto. Non è comunque lei non si dimette a breve, non si dimette a breve. Non si dimette a breve. Ovviamente voglio ottenere delle cose all'interno di quello che stiamo, che io ho fatto. Sì. E ma le devono dare un incarico nel terzo polo, cioè. Ma ce l'ha già l'incarico, sono responsabile di cultura e telecomunicazione, perché non è quello. Cioè un incarico però reale, in cui quando parla, quando parlano di questi argomenti parla lei e basta, perché altrimenti. Vorrei che ci fosse, non so come dire, un ordine, che ci fossero delle direttive, una serie di cose per cui con chi è che non si deve mai alleare Futura Libertà, perché lei dice deve restare nel centrodestra Futura Libertà, no? Non voglio diventare un partito legato alla sinistra, questo sicuramente no. Per cui mai anche con Rutelli no, mai, anche con Rutelli no, l'ho già detto, sì, anche con Rutelli credo sia rilevante. E, per esempio, nemmeno alleanze di tipo, come dire, emergenziale, come dice qualcuno, con Sinistra e Libertà. Non sono d'accordo, se emergenziale sono d'accordo, perché è un grosso rischio per i nostri elettorati. Bene, grazie, grazie Barbareschi, buonasera, a presto, a presto. Allora, caro Parenzo, qui è un casino tremendo. Bene, anzi, beh, al momento caldissimo, è caldissimo. Momento molto caldo, molto caldo. Certo, dopo queste definizioni di Berlusconi poi uno va ad Arcole, sì, la politica è fatta anche di queste cose. È un po' curioso, pure era un po' basito, ecco, un po' basito, incuriosito da questo, però, so, per carità. Ci può stare, ci può stare. E tutto scorre, va bene, che devi fare? Sì, però è curioso, tu hai fatto bene a ricordare quelle dichiarazioni di Barbareschi, è curioso, è tutto un po' curioso, ecco. Diciamo la verità, questa storia che dice Barbareschi, ci sono foto fatte da professionisti dentro le case di Berlusconi, ha dell'incredibile, qualcuno deve avere riferito a Berlusconi, secondo me è lo stesso Berlusconi, questo è pazzesco, che gli ha offerto, non posso credere, ma nessuno ha intercettato dentro casa, cioè bisogna smettere di dire delle cose non vere, nessuno ha intercettato dentro casa il Presidente del Consiglio, su questo non lo so, Barbareschi dice che ci sono delle foto fatte con mezzi professionali, ragazze, con mezzi, non lo so io, le ragazze le avranno fatte. Va bene, Daniele da Siena, buonasera, dica. Buonasera. Prego. Senta, io chiamavo in merito a una formazione di Rosy Bindi fatta sere fa a Linea Notte. Dunque, lei ha dichiarato testualmente che si sente, prima ancora che politicamente, antropologicamente diversa da Berlusconi. Beh, questo non è una novità, insomma. Non è una novità, però mi sembra una cosa significativa. Un tantinello esagerato. Mi pare una cosa significativa, io almeno secondo me. In che senso significa? Fermarsi un po'. Nel senso che dà ad intendere che c'è tutto un modo di vedere gli avversari politici, la politica stessa, da parte soprattutto di quella parte politica che rappresenta Bindi, che è estremamente settaria. Beh, Daniele, su questo, se uno parte da questa affermazione che ha fatto la Bindi, sicuramente lei ha ragione, ma la devo abbandonare perché, come sente, c'è il giornale radio che incombe. Caro Parenzo, ci sentiamo tra un quarto d'ora, con diversi ospiti, sorprese, ricchi premi e... Copione. 800 24 chi 0024. C'è con te? Chi ha invitato dopo? Chi c'è? Michele, te lo dico dopo. Ciao. Bene, eccoci qui, caro Parenzo, caro Parenzo. Bene. La nostra amica Iva Zanicchi dice in un'intervista oggi quello che ci aveva già detto a noi, sia a Strasburgo che a Bruxelles, che è delusa dalla politica, vuole tornare in televisione. però ancora i tempi non sono maturi per le dimissioni dell'Europarlamento, comunque noi le vogliamo anche bene, lo molto dice bene, cara Iva, ti abbracciamo. Ho deciso, finisco il mio mandato, finisce il mandato l'anno prossimo, poi smetto e torno in TV. In realtà non è l'anno prossimo, ma non è che due anni ancora, due anni, di che stiamo parlando? E poi torna in televisione con la Rai, forse sta parlando con la Rai, con una nuova trasmissione dal titolo Una vita da zingara. Cara Iva, ti abbracciamo, torna presto tra noi qui alla Zanzara. Intanto sentiamo i titoli del TG3, sempre 800 24 00 24, con tante notizie, tra cui quella clamorosa dell'ex sindaco di Bari, Simeone Di Cagno a Brescia, che è stato anche candidato sindaco di Bari, oltre che sindaco, il quale è stato pizzicato alla Camera dei Deputati, sempre dal settimanale Oggi, con una foto mentre consultava sull'iPad dei siti porno. Anzi, siti in cui ci sono delle escort che si offrono. E dice anche che in un momento di stanca del dibattito ci siamo distratti scambiandoci l'iPad con altri colleghi, non ne facciamo un dramma, era una goliardata. Più tardi lo sentiremo, caro. Sì, ma questo penso anch'io. Dici una goliardata, però se durante le votazioni sulle dimissioni di Bondi li mette a consultare, non è proprio bellissimo. Beh, appunto, l'immagine non è eccezionale. Beh, a maggior ragione che deve ascoltare Bondi, scusa, cose, le poesie questo di Bondi, pure, dai, questo pure le regole. TG3 titoli. Una folla enorme invade le strade del Cairo nel giorno della grande mobilitazione, l'esercito non interviene, il Baradei Mubarak lascia il paese. Vertice del PDL, in una nota si dà mandato a Brambilla e Santanchè a mobilitare la piazza, poi la smentita, solo un equivoco. Alfano, il processo breve in calendario, ma è uscito dai programmi del governo, l'opposizione non serve ai cittadini, ma a Berlusconi. Laminetti, con Berlusconi rapporto sentimentale, la richiesta di giudizio immediato per il Premier potrebbe arrivare tra domani e dopodomani. Perquisizioni nella redazione del giornale, indagato un consigliere del CSM che avrebbe passato al quotidiano un dossier sulla Boccassini. Nuovo record della disoccupazione giovanile al 29%, il livello più alto dal 2004, quasi 10 punti oltre la media europea. È stato ascoltato un amico di Elisa, la studentessa trovata morta nei boschi di Città di Castello. Il ragazzo aveva tentato di usare il bancomat della giovane. Un giorno è come vuoi, un giorno non è facile avermi sempre accanto a te. Fortuna che tu sei più avanti dei miei limiti e che sei saggia più di me. Beh, intanto devo dirti la verità che c'è questa storia del comunicato poi smentito del PDL sulla Brambilla e la Santanchè che organizzano e mobilitano la piazza contro i magistrati, che ha dell'incredibile. C'è Giuliano Ferrara che ha fatto un comunicato e furibondo su questa cosa qui, perché la comunicazione del governo è fondamentale, dice, e ha perfettamente ragione, come sai, no? Ha ragione, certo, perché evidentemente si sono resi conto che sarebbe stato un boomerang. Lo ha definito politicamente criminale il comunicato poi smentito dal PDL. C'è un po' di confusione. Mi ero perso altre uscite di Barbareschi, che mi segnala dal suo sito il meraviglioso Giglioli da Piombo Rane. Per esempio, al posto di Berlusconi mi vergognerei, fossi lui, per lui stesso, per la sua famiglia, per i suoi figli, me ne andrei dal paese. Hai capito? E poi vai Arcore. Peccato che c'è, non c'è qui, regole. non glielo posso dire. C'è delle regole. Va bene. Ci stavo dentro, non nego. Trip del mio ego, schiavo del piacere di un placebo. Schiavo del piacere. Parla di sesso debole, ma non ha conosciuto te. Però io so che hai un punto più sensibile che ti fa piangere per me. Beh, ci sono state molte donne in queste settimane, caro Parenzo, che hanno parlato di Berlusconi anche in termini molto, come dire, molto teneri. Ecco, utilizziamo questo termine, teneri. Sì. Per esempio, Barbara Guerra. È come un secondo padre, mondo dello spettacolo, Barbara Guerra. Inutile specificare cosa, come, perché è ragazza molto bella, ha partecipato ad alcune feste, non so di che tipo, ad Arcore. Comunque, per me Berlusconi è come un secondo padre, no fidanzato. Via. Se lei vede gli altri giornali, ho già specificato bene il rapporto che c'è tra me e il presidente. quindi tra qui ad essere la fidanzata, l'ho definito come un secondo padre, quindi non, un mio padre non è mio fidanzato e neanche il mio secondo padre potrebbe essere mio fidanzato. E poi c'è la famosa Sabina Began, come possiamo dimenticare, lo amo così tanto che lo spingerei sulla carrozzina. Io tante volte ho detto al presidente, io ti amo tanto, ma il mio amore può essere interpretato in tante maniere diverse, e lui mi dice a me: Sabina, ma tu sei una ragazza giovane, io ho 72 anni, questo mi disse un po' di anni fa, e io ho detto: ma io ti amo ugualmente, non ha importanza della tua età. E lui disse: ma io fra 10 anni sarò in una sedia a rotelle. Io ho detto: ma io ti porto nella sedia a rotelle. Un giorno non è facile avermi sempre accanto. E poi le definizioni, sempre la stessa Began: Berlusconi può essere come Gandhi, Ruby, da Berlusconi è come la Caritas, insomma, ormai frase ormai rimasta scolpita sulla pietra, diciamo. La stessa Gelmini, che a un certo punto ha detto: Berlusconi aiuta tutti, firma, assegna chi incontra. Vi dirò una cosa che a Berlusconi sicuramente non farà piacere, visto la sua riservatezza e il fatto che non ha così, non ama decantare quello che fa nel privato. Però vogliamo ricordare anche quanti soldi Berlusconi dà per la beneficenza, quante persone ha aiutato. A me è capitato tante volte di fare il viaggio con lui da Milano a Roma e in aereo vederlo firmare assegni per chi aveva bisogno del dentista, per chi aveva bisogno dei soldi per far studiare i figli. No. Cose incredibili? No. Ma perché non avevi sentita questa? Tu che aereo viaggia per Berlusconi, ma non mi faccio trovare anch'io, scusa. Dato che prendi molti mezzi di trasporto certo, nella tua seconda vita. Dai. Ma è veramente inverosimile, ma scusa, vedrà l'aereo presidenziale, questa roba che va sull'aereo e stacca assegni a tutti. Ma che roba è? Che roba è? La classe economica. Chiedilo alla Gelmini, io guardo, quando sento certe cose non... Dai, non, c'è da andare ai matti, scusa, ma ma perché ci coglionano così? Io vado ai matti anche quando sento Isabella Ferrari fare un appello sulla dignità delle donne calpestata da Berlusconi, vado ai matti allo stesso modo. Sì, risentiamo. Chi c'è, Contelli? Chi c'è? È passato il concetto per cui, non so, in questo paese non c'è bisogno di studiare, di essere meglio dell'altro, di migliorarsi, di fare del proprio lavoro un'arte. C'è soltanto bisogno di essere furbi, belli, pronti a qualunque prezzo morale e salti la fila e ottieni lavori che non avresti mai ottenuto. Ecco, è il paese dove si salta la fila. C'è gente che viene lasciata ai margini della società che è meglio di gente che è al centro soltanto perché è corrotta e furba. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua. Beh, ricordo solo questa partecipazione di Isabella Ferrari che tuona contro Berlusconi dalle colonne di Repubblica, fa video appelli eccetera eccetera insieme a tante altre donne, cose pazzesche che non stanno né in cielo né in terra, mobilitazione delle donne contro Berlusconi, cosa incredibile. Insomma, no, Isabella, no, quella, sì, ognuno si mobilita per quello che vuole, ma mica dico che è illegittimo, mica voglio mandare i carabinieri, dico che è una stronzata pazzesca. Comunque, al di là di questo, Isabella Ferrari partecipò a Sapore di sale, che è Sapore di mare, come si chiama? Sapore di mare di Vanzina, dove se ne uscì grande film. grandissimo film, e poi ebbe anche una relazione mai smentita con Boncompagni, che forse l'aiutò, forse no, nel mondo dello spettacolo, quando lei aveva 15, mi sembra, 16, comunque era minorenne, 15, era minorenne, e lui non so quanti, non so se è relazione, non so di che tipo, non mi interessa, via. Prima di farlo dobbiamo essere sicuri di essere pronti. Che sporcaccione che sei diventato, vieni. Sapore di sale. Mi riferiscono che Enrico Letta, non so quando, forse nel pomeriggio o in serata, ha detto: siamo disponibili, Enrico Letta, dunque Partito Democratico, siamo disponibili per andare oltre Berlusconi a lavorare anche con un governo guidato da una persona responsabile come Roberto Maroni. Ma tu ti rendi conto o no? Vanno bene tutti! Anche Maroni, la Lega, i fascisti, le ronde, il sindaco di Adro. Maroni è sempre piaciuto a una parte del centro-sinistra. Tutti tranne Berlusconi, una cosa pazzesca. Tutti tranne Berlusconi, una cosa pazzesca. Un governo di emergenza, andare a casa soltanto. Letta versus Cicchitto, via. Una nostra deputata, Lella Golfo, ha presentato un progetto di legge che codifica appunto una quota di presenza nei consigli di amministrazione delle donne. Però non sei corretto se la racconti così. Non sei corretto se la racconti così, lo vedi quando... No, no, come non sono corretto? Sì, perché quello è un disegno di legge, è un'iniziativa... Ma tu devi stare attento come, sì, come usi le parole, hai capito? È un'iniziativa di parte. Non puoi parlare in questo non modo. Non sei corretto se la racconti così. Non ti permetto di... Lo dico. Io non sono affatto scorretto, corretto se la racconti così. Ho fatto riferimento all'onorevole Lella Golfo che l'ha firmata, è un'iniziativa di parte. Tutte la legittimità, così, hai capito? Scorretto. E sei scorretto te a usare questo linguaggio. Perché l'ha raccontata come una cosa che dimostra che non è che così. Dimostra è una quello cosa che voi siete. Cioè che abbiamo fondamentalmente su qualunque causa dimostrato... dovete radicalizzare lo scontro. Sì, hai capito? Sapore di sale, sapore di mare. Si scontrano in maniera molto vigorosa poi, eh. Senti, sì, senti, sì, senti. Corpi a corpo con Cicchito che meraviglioso. Senti. Le quote rose per pratico. I consigli di amministrazione delle società quotate. Benissimo. E noi ed donne, è un successo allora, di tutti. Allora io fermi non posso dimenticare tutti, fermi tutti, Cicchito, aspetti. Berlusconi, devo togliere l'audio, per favore. Cicchito, Cicchito, Cicchito, non posso dire questo, devo essere insultato da questi testimoni. Ma vai a imparare la buona educazione. Vai a imparare la buona educazione. Chiedo alla regia di staccare i microfoni. A un certo punto è impazzito Cicchito, perché Letta ha detto guarda che non è un'iniziativa solo diciamo del PDL, credo, no, ma un'iniziativa sì, bipartisan. Sì, vabbè, abbiamo la borsa, non lo so, abbiamo la borsa 800, ma c'è un clima politico evidentemente, prescinde dalla discussione di merito. 800 24 00 24, tra poco cercheremo di contattare il sindaco di Bell, ex sindaco di Bari, per questa storia dell'iPad con i siti porno. Siamo qui, caro Parenzo, devo dire che una delle frasi del giorno l'ho trovata in un articolo su Pannella, all'interno del giornale, articolo di Laura Cesaretti, invece il titolo è questo, invece Pannella si butta a destra, così si torna allo spirito del 94, l'articolo si chiude in questo modo, con una frase dello stesso Pannella sui magistrati milanesi. In termini di reato e non di peccato, Bruti, Liberati e il suo ambientino sono infinitamente più pericolosi di Berlusconi. Questo dice Pannella, che peraltro, come si sa, i radicali, è il capo dei radicali che sono nel Partito Democratico. Bene. Un classico Pannella. Classico pannelliano. Classico pannelliano. La partitocrazia, la cupola partitocratica, sempre detto che i magistrati. Il potere magistra Pasolini, tutto sempre torto. Mimmo, provincia di Cremona. Buonasera. Buonasera. Dica. Allora, ma prima chiaramente due parole sulla parabola di Finiana, che chiaramente cos'è, il 14 dicembre si è votata la fiducia, sì, e si è conclusa lì. Il potere e la capacità di interdizione e di interlocuzione di Berlusconi sono immensamente più elevate, più forti, senza confronto. Insomma, in che senso, scusi, che tipo di capacità parla lei? Di Berlusconi? Beh, innanzitutto come capo del governo, quindi la possibilità di poter distribuire diciamo incarichi e poi come proprietario di un impero mediatico che conta, non so se 20.000, 30.000 addetti, non so quanti ne conta. Cioè lei dice che Berlusconi è troppo potente dal punto di vista economico, mediatico e finanziario e dunque riesce ad attrarre deputati, senatori, persone. Fini gli sarebbe andata bene se fosse riuscito nella spallata, ha mancato per un pelo, probabilmente per un pelo ha mancato, ho capito. Questo chiuderà la sua carriera, almeno di capo, cioè di persona di riferimento. Solo un'ultima cosa mi lasci dire, io ho sentito prima l'intervento di Barbaretti, oddio santo, io quasi piangevo e ridevo nel contempo. Perché? Pronto? Sì, Mimmo, lei sta ridendo anche adesso, ma perché vuole... No, ma piango anche. E pianga, se vuole piangere, vuole ridere e piange. Come si fa a piangere? Se mi faccia un... Si pone, che chiami l'ottimo Parenzi, con che sentimento vi ponete di fronte a un intervento di quel tipo lì? Beh, chi vuole che le dica? Evidentemente è un po' incerto il ragazzo, insomma. Mimmo, adesso che sta facendo? Sta ridendo o sta piangendo adesso? Tutte e due. Tutte e due insieme. Come si fa a piangere? Mi faccio sono stato Demetrio Stratos, un grande autore della nostra musica, purtroppo compianto. Sì. E riusciva nello stesso tempo a esprimere due tonalità diverse. Ed è una cosa, un dono della natura che. Che anche lei ha, certo. A voi eletti, lei si sente un eletto. Chiaramente, sì, sì. Certo, per carità. Ma come si fa, per esempio? Mi faccia capire come si ride e si piange allo stesso tempo. Non si può spiegare, lo si fa e basta. Lo faccia. Così, ecco. Cioè, scusi, no, voglio capire. Ho sentito benissimo, però. Ho sentito male, scusi, c'è il signor Parenzo. Ho sentito solo un po' di catarro, francamente. Comunque, purtroppo la prestazione, diciamo, è un po' limitata dalla presenza di... E vabbè, ma noi ci accontentiamo. Mimmo, prego, vada pure di nuovo. No, ecco, semplicemente questo. Quindi io ero veramente allibito di fronte a questo intervento di Barbareschi, che adesso ovviamente... Ma ride e pianga allo stesso tempo. non si può, più di così in questo momento non riesco a fare. Non riesco a fare. Poi del resto non sono un uomo di teatro come Barbareschi, io quindi... No, certo, ecco, perché... Quindi, io semmai il teatro cerco di andarlo a vedere, non Barbareschi, chiaramente. Non le interessa Barbareschi? No, assolutamente, non mi interessa proprio. Va bene, grazie signor Mimmo, che ride e piange allo stesso tempo, ma non è l'unico, evidentemente. No, il riso può essere anche... spesso unito al pianto. Paolo dalla provincia di Udine, chissà cosa stava vedendo in televisione, c'era un sottofondo fastidiosissimo. Paolo, allora. Provincia di Udine. Pronto? Sì, dica. Buonasera dottor Cruciani, volevo fare i complimenti al dottor Parenzo, che lo vedo molto, anzi lo sento, molto brillante, spiritoso, comico, direi, oserei dire arguto e molto veloce nel capire la situazione e fare la battuta brillantissima in un nanosecondo. Questo è da pochi, gli va riconosciuto. Non ho sentito, puoi ripetere perché non ho sentito. Non ripete, vado a sentirsi la registrazione. Allora, devo semplicemente dire che posso avere l'ambulanza in sottofondo? Dipende, lei se la chiama. Un'ambulanza preventiva. Se la chiama da solo l'ambulanza, abbia pazienza. Sì. Comunque vediamo. Ecco, per adesso stasera non abbiamo mandato nulla, per cui siamo non lì è in attesa. Partita, non è ancora partita comunque, stasera. Io per penso cui... comunque che veramente Berlusconi sia uno statista unico nei primi 150 anni. Ma cosa sta vedendo? Cosa sta vedendo la televisione, Paolo? No, sento un rumore fastidioso. E Parenzo, no. Dove sei, David? No, sono a Piazza di Pietra. Ah, solito. È passata un'ambulanza poco fa dall'altra parte. Tra l'altro, sì. Ah, ho capito. Dunque, i rumori sono nel bar di Piazza di Pietra. Benissimo. No, non credo, non lo so. No, sentivo dei rumori, ma non è un problema. Paolo, prego. No, dicevo che appunto, secondo me, è uno statista unico nel panorama dei 150 anni della nostra storia. E noi non riusciamo a capirlo e probabilmente ci vorranno altri 150 anni per capirlo, perché sì, lui è abituato, come dire, con statisti di livello mondiale, penso a Muammar, a Putin, a Lukashenko, a Mubarak, tutte persone di altissimo livello e grandissimi democratici come lui, non può ovviamente avere dei comportamenti con statisti di basso livello come Obama, Osama Bin Laden o Obama, che lui chiama come tutti sappiamo, piuttosto che con la Merkel o altri, quindi sono queste le persone con le quali lui si interfaccia normalmente. Vabbè, ma lei quindi... non dobbiamo chiamare l'ambulanza perché lei è sta facendo della sottile ironia sulle conoscenze e sui rapporti di Berlusconi. No, Paolo. È politica alta, come ha detto Barbareschi. Se lei ha sentito, ha usato i termini politica alta, che è quella che lui vorrebbe sentire. Infatti, da attore è uscito dal PDL, è entrato in Futuro Libertà, va a Arcore e adesso si iscrive al gruppo misto. Questi non si è iscritto nessuno di alta politica. Non si è iscritto a nessun gruppo misto, Paolo. Adesso resta in Futuro Libertà, poi nel futuro, come dire. Ecco, questa non lo conosce nessuno. È un'altissima politica che voi non riuscite a cogliere in maniera più assoluta. E anche il popolo in generale non arriva a cogliere, è una cosa da pochissime elite intellettuali di altissimo livello. Va bene Paolo, quindi, ho capito la sua ironia, la politica fa tutto schifo, soprattutto quelli... No, questo lo dice lei, voglio dire, io non lo dico, dico semplicemente quello che si ascolta quotidianamente, che sì, diciamo chiaramente, sarebbe tragico se non fosse comico, perché nulla resta di tutto questo. cioè ci sono dei distinguo continui sulle cose e secondo me su cose sulle quali ormai distinguo non ci dovrebbero essere. E va bene, grazie Paolo. 800 24 00 24, la reazione di Paolo, chissà quale sarebbe stata se fosse stato in collegamento ancora, perché adesso abbiamo una di quelle piccole cose della politica che forse ci fanno sorridere o forse no, perché è in linea con noi l'ex sindaco di Bari, Simeone Di Cagno a Brescia. Buonasera. Buonasera. Come sta? Adesso abbastanza sto avendo una serie di messaggi che non sono così molto esaltanti, diciamo. Cioè che cosa le scrivono i suoi messaggi, signor Di Cagno? No, non sono messaggi, nel senso che telefonate dei giornali mi farebbe più piacere parlare d'altro, parlare di altro e essere noto per fatti diciamo più positivi. Che vuole fare? I fotografi sa come sono, i giornalisti. No, siccome io sto pagando il noviziato dell'avvicinamento all'informatica, perché è da un mese che ci hanno dato questi strumenti e quindi... Da un mese che vi hanno dato l'iPad, scusi, perché... L'iPad, sì, perché io non il computer non lo so accendere. Diciamo. Scusi, perché l'iPad è stato un regalo di Berlusconi per Natale, se non sbaglio, vero? Di Berlusconi, del gruppo. Del gruppo alla Camera per Natale, giusto? Sì, per Natale. Per Natale. Lei dunque non lo sa usare. I siti preferiti, metta tra i siti preferiti ne metta altri, sindaco. No, ma invece mi hanno detto che io stavo facendo la pulizia del computer, ho spinto alle spam, che io non so neanche che cosa siano, e quindi è venuto qualcosa che mi ha stuzzicato l'interesse, perché comunque vedere delle belle figliole, anche se queste sono a pagamento, diciamo, sono... Ma che facevano queste figliole nella schermata che le si è appalesata? No, niente, si appalesavano soltanto queste ragazze che davano delle prestazioni. A pagamento, no? Si pubblicizzavano, diciamo, sul computer, non più nemmeno che... Scusi, ma mi può ripetere come sono venute fuori queste foto, questo sito? Cioè... La mattina non era ancora iniziata la seduta, perché sì, c'era Bondi che doveva fare, diciamo, la sua esposizione, sì, per difendersi le cose, quindi ero già puntualmente in aula, in attesa che iniziasse il dibattito stavo prendendo i messaggi, cancellando quelli che avevo visto e quindi cancellando le cose. Mi hanno detto che ho spinto le spam, che sono le mail indesiderate, diciamo, no? Indesiderate, quindi nello spingere queste sono venute fuori queste immagini e che quindi puntualmente i fotografi hanno... Certo, mi scusi un attimo, dunque lei sta dicendo che è arrivato su questi siti di escort per sbaglio? Ma sicuramente, perché io non frequento queste cose assolutamente. No, e lei oggi però, dopo che è scoppiato, diciamo, il piccolo scandalo, chiamiamolo così, ha dichiarato: in un momento di stanca del dibattito ci siamo distratti scambiandoci l'iPad, non ne facciamo un dramma, era una goliardata. Dunque non sembrava una cosa successa per caso, cioè vi scambiavate l'iPad? Non era questa la comunicazione che io ho dato, era soltanto che eravamo all'inizio della seduta e quindi all'inizio della seduta sulle dimissioni di Bondi e non... Cioè era in corso iniziata la seduta o no? Scusi. No, non era ancora iniziata, perché mi hanno detto che c'era quel C e quella D che compariva sul piccolo monitor che abbiamo davanti, che quando c'è quella la seduta non è iniziata ancora. Dunque la seduta non è iniziata e cosa è successo? Vi siete scambiati sto iPad con questi siti tra i deputati? No, poi abbiamo commentato, diciamo, nel fare pulizia è venuta fuori questa immagine e siccome in questi momenti non si parla altro che di escort e di cose, quindi c'è stato poi un commento sotto questo aspetto, diciamo, con le persone che erano vicine. Dunque lei non è andato apposta su quei siti? No, guardi, assolutamente. No, ma non è mica un delitto, non è mica un... Come non ho difficoltà ad ammettere, non avrei difficoltà a dire, perché andarci a guardare può essere anche una questione di, diciamo, di pruderia, chiamiamola così, anche se magari è deteriore. Però lei ha detto meglio, prima... Meglio quello quello di Bondi, no? Forse, non lo so. No, ma Bondi non c'era ancora, non c'era ancora Bondi. Non c'era ancora Bondi. Senta, però lei prima all'inizio dell'intervista, del suo intervento, ha detto, beh, comunque sono belle ragazze, si guardava, eccetera. Cioè, sembrava una cosa quasi voluta, no? Che voi siete andati, invece no. Lei mi sta dicendo per caso, tutto per caso. No, no, scusi, che appaiono delle belle ragazze, mi hanno detto anche che quando si naviga poi vengono dei messaggi, e quindi questo fatto e la pubblicità è l'anima del commercio, diciamo, quindi anche in quel campo ci si presenta nel modo migliore. Sì, effettivamente, pure a me non capita mai, però può succedere. Perché no, a me dicono che capita, mi hanno detto voi forse se andate navigate più di me non no, non capita mai di arrivare per caso, però è vero che ogni tanto si possono aprire delle pagine indesiderate. No, in questo caso cancellava, quindi, e zam, si è aperta messaggi di posta, io non capisco messaggi, lo spamming riguarda la posta, amico mio. No, appunto, alla posta ci possono essere dei link alla posta. Ho capito. Non so, usate dei termini che per me sono nuovi. Vabbè, però con lei c'ha l'iPad, ve l'ha regalato il gruppo, si informi. Mi devo informare. Ho letto oggi che ci sono la Camera mette a disposizione, sia pure a pagamento, degli istruttori per questo fatto. Quindi, per cui la Camera paga degli istruttori a pagamento, cioè voi pagate in realtà. Paghiamo gli istruttori per poter. No, noi paghiamo, Cruciani. Ah, sì, è vero. No, noi. Caso paghiamo noi. Cioè, pagate voi. Hanno mandato i questori. No, però paghiamo noi, giustamente in questo caso pagano i deputati. Pagano. Chi paga i deputati? Beh, lui lo dice. Gratis che gli paga la Camera. No, dai. Ma l'ha detto l'onorevole Di Cagno, bisogna credergli. I questori hanno mandato una circolare che dicono che a pagamento si può usufruire sia dei servizi linguistici che di quelli informatici. Allora, il signor Simeone Di Cagno a Brescia è un personaggio particolare, cioè lo si nota anche dal nome, no? Simeone. Di Cagno a Brescia, nome, insomma, una famiglia nobiliare, molto conosciuta a Bari, anche molto ricca, si può dire, no? Un amico in delitto. Ed è anche una persona che viene da anche diverse esperienze matrimoniali, giusto, signora? Lei è la terza moglie, o sbaglio? Terza moglie. Terza moglie, ha due figli piccoli. Ma sua moglie cosa le ha detto? Questo sarà un problema. Perché niente, dovrò parlare perché non ho avuto modo ancora di farlo. Ma già le ha mandato qualche messaggio? Vi siete sentiti? Com'è? No, non ho ancora parlato perché abbiamo appena finito aula, quindi. Però è un problema, certamente. Certamente è un problema. È un problema. Torno subito a 30 secondi, le faccio l'ultima domanda. 30 secondi, lei è stato molto cortese a rispondere subito alla nostra chiamata. Certo che sua moglie che tipo è, signor Di Cagno? Una persona che capisce queste cose, oppure lei è sicuro che si arrabbierà? Ma credo che ne abbia anche il diritto di arrabbiarsi, perché così, venendo quando l'impatto di questa cosa, spero poi che il dialogo con porti a un chiarimento. Cioè, potrebbe anche non crederci che lei ci è arrivato per caso, diciamo la verità, c'è questa possibilità? Ma questo indubbiamente c'è, ma però purtroppo non posso dare un riscontro diverso rispetto a quelle cose che ho detto. Io spero di essere sempre sincero nella vita, di non ho mai negato l'evidenza, diciamo. In questo caso spero di venire creduto per il mio neofitismo dal punto di vista informatico. Parenzo, voglio chiudere la sua non conoscenza dell'informatica. Certo, io non capisco. L'ho detto, crederà? Io di informatica non ci capisco niente. E quindi la crederà di sicuro, figuriamoci. Vediamo, non lo so, quelli sono affari suoi, vedremo poi. Sì, la perdonerà. Voglio chiedere però all'onorevole Di Cagno a Brescia questa cosa qui, l'ultima cosa, poi la lascio. Lei dice una goliardata è stata, no? Alla fine, però certo non è una bella cosa il fatto che uno trova un sito per caso, come dice lei, poi scherzate, ridete tra deputati lì in aula. Ammetta, ho commesso un'imprudenza, un errore o no? No, ma io per carità, il fatto di essere fermato è un errore, anche se diciamo che quella pruderie benevola, chiamiamola così, insomma, dal punto di vista, senza voler alleggerire troppo il discorso, però voglio dire, non è un fatto usuale, ecco, quindi è una Ripeto, è una curiosità che deriva dal neofitismo di queste immagini. Bene, grazie, buona lei, serata. Grazie, mi raccomando, ci informi. Saluti la signora. La signora è un problema, insomma, ci informi. Ci tenga informati. Noi, per carità, non vorremmo mai che. Famoglia e marito, come si dice. Non mettere il dito, però in questo caso vorremmo contribuire anche, insomma, a una vi chiederò un'alleanza in questo caso. Appunto, no, se vuole sua moglie, vuol dire, guarda, richiami quelli della Zanzara, Parenzo e Cruciani, che possono testimoniare che è stata davvero una cosa casuale, una goliardata. Testimoniare. Ma insomma, se può servire, se può servire per una coppia, noi lo facciamo, Parenzo. Non sarebbe falsa testimonianza. No, infatti. Grazie, buonasera. Grazie a lei, buonasera. Grazie. Ernesto da Roma. Buonasera, dottor Cruciani, a lei e al dottor Paranza. Ancora? Ma lei è il solito, Ernesto. Paranza mi piace di più perché ho origini meridionali. Quindi per me ma Ernesto, lei è il solito, è un altro di quelli che si presenta sotto mentite spoglie. La Paranza, va bene, la Paranza, d'accordo. Senta, io brevemente... volevo fare due considerazioni su delle cose che ho inteso sulla Ferrari e su Barbareschi che ho inteso all'inizio trasmissione. Dica. Sulla Ferrari volevo dire che questo moralismo vetero femminista di Isabella Ferrari, che tra l'altro mi piace molto come attrice e come donna, sì. Viene da dire da che pulpito viene la predica, perché a parte la relazione adolescenziale col cinquantenne Boncompagni, io ho visto l'anno scorso un film bellissimo con Moretti e Alessandro Gassman, di cui però non ricordo il titolo, forse Caos Calmo. È un ottimo film dove lei però in barba a qualsiasi moralismo femminista, vetero femminista, non esita a interpretare molto bene, tra l'altro, una scena di sodomia col bravo comunista Moretti. Vabbè, quello... Ma chi dice? Ma lei, quello lei è veramente un poveretto, però... quello però, scusi Ernesto, questo... è un poveretto, eh? Questo che c'entra? Adesso non ti arrabbiare perché ti ha chiamato Paranzo. Ma no, perché è un poveretto, dice delle stupidaggini, quello lì è un film, no? È infatti, una sto dicendo che è un film, che non c'entra niente... È La Paranza. E La Paranza è permalosa stasera. Ma lei è un poveretto, non è un... Però devo dire che la reazione... Non lo capisco, però... Scusi Ernesto. Ho capito, una scena di sodomia. quella che è, va bene, cioè, vuol dire, che c'entra con le posizioni della Ferrari? Casomai si può parlare del passato della Ferrari, no? Guardi, una femminista che interpreta una scena di sodomia è contraria a tutti i principi. Ma lei non sa cos'è il cinema, cos'è la poesia, ma perché interviene dicendo delle stupidaggini? No, però scusa, lei è sciocco. Senta, dica. Poi volevo dire una persona sciocca. Sì, però ho capito, in questo caso, Ernesto, le posso contestare una cosa? Lei dice una femminista che poi interpreta, o comunque una che incarna dei valori, del femminismo, eccetera, che interpreta delle scene di sodomia. Beh, sono delle scene di sodomia, diciamo, consapevoli, in cui c'è la cioè, non è che sono una scena in un film, una storia. Cioè, non... Io non voglio dilungarmi su questo aspetto, altro ragionerei. Però fosse stata una scena d'amore, un amplesso normale, va bene. Ma è un amplesso normale anche quello, un rapporto normale anche quello. È un film, è fiction. Ma lei è come cosa? È come Ruggero lei. Cioè, è il nostro amico Ruggero. È un personaggio clamoroso. Che quando sente parlare di sodomia impazzisce. No, magari non ce l'ho. È solo che non mi sembra proprio. Cioè, se, ho capito, ma non è che la sodomia è contraria ai principi, diciamo, della liberazione della donna. Abbia pazienza, Ernesto. Oddio. Ma come oddio? Comunque, adesso sarebbe una tanta confusione. Sarebbe una discussione anche filosofica un po' troppo lunga. Va bene, chi la Paranza, che c'è la Paranza? No, poverino, la confusione. Un attimo. Paranza? Sì? Abbiamo la pubblicità, resti con noi Ernesto, intanto molti invocano gli ascoltatori di ieri sera, due eccezionali, Bruno e poi un altro, Carlo da Milano, fantastico, poi vi risentiremo, c'è ancora tanto tempo fino alle 21 con la Zanzara, 800 24 00 24, a tra poco. Per chiamarci in diretta qui alla Zanzara fino alle 21, Massimo da Bologna, prego. Pronto? Massimo, dica. Buonasera, io volevo intervenire, volevo commentare l'intervento di Barbareschi che ognuno a casa sua può fare quello che vuole, cioè lui ha detto queste testuali parole. In realtà non è così, cioè uno a casa sua può fare quello che vuole nel rispetto delle leggi, però forse da Zelensky voleva, aveva affrontato un moderato tentativo di difendere, diciamo, la privacy di Berlusconi, ma quella di tutti i personaggi pubblici. Sì, Massimo, devo dire che su queste cose Barbarecchia è sempre stato dalla parte di Berlusconi. Poi le divergenze sono state su altri argomenti, è stato anche molto pesante con Berlusconi, l'abbiamo detto prima, l'abbiamo ricordato, leggendo alcune dichiarazioni che ha fatto in questi mesi. Dopodiché uno, dopo aver detto quelle cose su Berlusconi, avere dei dubbi e pensare anche solo per un momento di tornare nel PDL è un po' bizzarro, ecco. Massimo. Mi era sembrato anche che lui un po' fosse un po' infastidito, oppure volesse tutelare la privacy personale perché violata da, diciamo, dagli strumenti mediatici che abbiamo oggi. Però voglio dire, Berlusconi è stato e tuttora un grandissimo comunicatore mediatico, voglio dire, deve il suo successo, la sua posizione probabilmente a quello. Quindi è una persona che comunque ha utilizzato e utilizza gli strumenti mediatici per comunicare delle cose, e mi fa un po' strano che lui, cioè lui per esempio va in TV ad attaccare i magistrati, però poi se qualcuno indaga su di lui e sui giornali compaiono i titoli, si sente un po' preso di mira, additando poi questa, il tutto a dei partiti politici, cioè, invece voglio dire, la magistratura è un qualche cosa che non è politicizzato per sua natura. Beh, insomma, dipende, possono esserci dei giudici che agiscono anche per motivi politici, non è escluso. Massimo, la ringrazio. Simone da Verona, buonasera. Buonasera a tutti. Dica. Niente, allora io volevo semplicemente intervenire sulle manifestazioni che hanno fatto le donne, che lei ha un po' criticato prima. Sì. E più precisamente volevo dire che su Berlusconi si possono avere dei dubbi, io neanche uno, però magari qualcuno ancora ha dei dubbi. Però su quello che per lui è la donna penso che non ci sia nessun dubbio. Ah, lei riesce a entrare nella testa di Berlusconi e riesce... Beh, quell'argomento lì sì, è molto semplice. Ah, beh, certo, è molto semplice. Ci sono... Quello lì mi sembra che sia innegabile quello che lui pensa delle donne. Lei è lo psicologo di Berlusconi? Ma no, non serve essere uno psicologo. Ma insomma, serve secondo me in questo caso, no, perché chi vuole attribuire a Berlusconi una visione delle donne o del mondo femminile, secondo me fa un gioco assurdo. Mi scusi, una persona intelligente come lei si permetterebbe di fare delle osservazioni tipo quelle che lui ha fatto alla Bindi? Lei le farebbe quelle affermazioni? Sì, lì, ma no? Guardi, io posso fare anche delle battute peggiori, ma non per questo da una battuta sulla Bindi ne discende l'idea che Berlusconi ha delle donne. Non è vero, spesso ho fatto anche delle battute peggiori. Tutti noi, magari non in pubblico, come no? Di una donna bella, insomma, brutta. Lei guardi, capisce che scherza o che fa la battuta. Ma quando mai? Quello che pensa Silvio. Insomma, allora. Vabbè, insomma, secondo allora lei lasciamo perdere la possibilità o meno di entrare nella testa di Berlusconi e capire come la pensa sulle donne. Lei a che conclusione è arrivato? Che se io fossi una donna, sì, o comunque non capisco come una donna può dare il voto a una persona del genere. Ho capito, questa è una domanda che lei si pone da 15 anni però, perché ci sono tanti italiani che hanno votato per Berlusconi da 15 anni a tante questa donne parte. Anche. Tante donne però, anche. Dunque tutte rincoglionite, tutte imbecilli. No. Le donne che hanno votato Berlusconi finora, cosa sono secondo lei? Sono zoccole o la pensano come lui? Vabbè, insomma, lei è malata. O gli sta chiamatemi l'ambulanza. Essere considerate così. Vabbè. No, ci vuole. Dove si trova? Qui ci vuole. Sulla Brennero. Su al Brennero? Cos'è Brennero? Sì. In che zona, scusi? Più o meno ad Affi. Ma dov'è questa zona? Fate presto, però, perché fra poco arrivo. No, appunto. Facciamo presto. Simone, scusi, ma lei ha chiamato da Verona? No, io sono da Verona, però sto scendendo dalla Brennero. Dall'autostrada. Però si fermi un attimo, se no non riusciamo a... ci deve dire tra un'oretta, quando arrivano le ambulanze, dove si trova esattamente lei? Va bene. Tra un'oretta la richiamiamo, mi raccomando. Scusi un attimo Simone, lei ha detto le donne che finora hanno votato per Berlusconi o sono zoccole o la pensano come lui? Esatto, o esatto. No, o gli sta bene che essere considerate come lui le considera. Cioè come le considera, delle serve, delle schiave, delle pezze da piedi, degli oggetti Bravo. Sessuali, come ne pensi? Così. Degli oggetti. Dunque tutte le appello, da comprare, considerazione, da comprare, considerazione, da regalare, sì. Da prestare, da passare agli amici, da passare a tutti gli altri deputati o parlamentari o quello che è. Un oggetto, bravo. Un oggetto, benissimo. Però non mi serve di essere così l'unico a pensarla, Beh, no, ma infatti generale. Secondo me bisognerebbe chiamare l'ambulanza per tutti quelli che la pensano così. Cioè, no, assolutamente no, Simone, per carità, non è l'unico. D'altra parte c'è chi pensa, adesso farò riascoltare tra poco una meravigliosa Concita Legherola l'altro giorno, c'è chi pensa che Berlusconi istighi i ragazzi con le intercettazioni che sono uscite, eccetera, eccetera, ad andare nel bagno a masturbarsi. Cioè, di questo stiamo parlando, non so se vi rendete conto. La 7, comunque, titoli, che vuole dire su questo? Anche secondo lei è così? Neanche... Posso parlare? Prego. Neanche noi camionisti, che siamo considerati una razza spregevole, arriviamo secondo me a pensare della donna, io sicuramente no, ma neanche più spregevole dei camionisti arriva a pensare a considerare la donna come la considera lui. Addirittura Ernesto, Simone, mi scusi, ma mi sembra un po' esagerato, francamente. Beh, poi perché spregevole? Io considero i camionisti, ce ne sono tanti che ascoltano la Zanzara, delle persone... delle persone assolutamente genere, rispettabili. Sì, ma lei per esempio non è uno di quei camionisti che hanno appese al... No, nessun poster, no, nessun poster, io faccio il mio lavoro onesto, pago le... Vabbè, non è che quelli che hanno il poster con le donne nude, che è una, come dire, una delle, no, dei luoghi comuni che si... Uno dei must, su. È superata questa, non ci sono più i poster. Sì, dai. Sì, ce l'avete ancora. Ci sono i computer con i siti che arrivano così per caso, anche da noi. Beh, anche in Parlamento sembra. Sì. Va bene, la 7, titoli, grazie Simone, camionista dal Brennero verso Verona. Annulliamo l'ambulanza per Simone, annulliamola. Sì, adesso lo richiamiamo. Sprecato. Una folla di 2 milioni di persone invade il centro del Cairo per protestare contro Hosni Mubarak. L'opposizione chiede le dimissioni del Rais egiziano, che forse sta per parlare alla nazione per annunciare che non si ricandida. Il PDL rilancia le riforme, in testa l'economia con un colpo di acceleratore per garantire la ripresa, ma anche il processo breve. Non avevamo mai rinunciato al processo breve, spiega Alfano. Ma nel PDL scoppia un caso. Prima il partito annuncia una mobilitazione in difesa del Premier e poi fa marcia indietro. Solo un equivoco minimizza Bonaiuti. Ma Giuliano Ferrara è molto più diretto. Berlusconi controlli meglio la sua comunicazione e soprattutto la Santanchè. Luca Barbareschi abbandona o no Future Libertà per rientrare nella maggioranza? Ieri sera ha visto Berlusconi, oggi casini e fini. Resto coi futuristi, spiega, ma se non rispettano il nostro programma lascio la Camera. Non ci saranno nuovi interrogatori di Nicole Minetti. La Procura di Milano sta per chiudere il fascicolo con la richiesta di rito immediato per il Premier sulla vicenda Rubbia. Leggeremo quindi anche i 3 verbali della ragazza. Il ministro degli esteri, indagato per l'acquisizione dei documenti provenienti da Santa Lucia. La denuncia contro Frattini da un esponente di Futuro e Libertà. Siamo qui, caro Parenzo, in una serata ricca di colpi di scena, ma io non ti ho ancora chiesto, ma tu credi alla versione del sindaco, l'ex sindaco di Bari, Simeone di Cagno Brescia? Sì, ma sì, in questo ci posso anche credere. Cioè, magari... sono arrivato a quel sito di escort per caso. Per spam, può essere, è stato un po' confuso dalla ricostruzione, però insomma sì, non penso che si sia messo... Poteva dire che alla fine sì, non ha negato che poi quando lo ha visto dice no, l'ho chiuso subito, dice vabbè, poi lo abbiamo commentato, abbiamo sorriso, ma questo avviene dalla camera fino al bar, fino alla caserma, fino alla scuola, fino all'università, fino alle redazioni dei giornali e delle televisioni, è una cosa abbastanza, non può capitare, no? Certo, poi una tempesta in un bicchiere d'acqua, c'è di peggio, voglio dire. Beh, no, che ci sia di peggio, non c'è dubbio. C'era ancora Ernesto da Roma con la Paranza? Però gli credo. No, ancora sì, Ernesto. Sì, sono qua, pronto? Sì, che voleva ancora Ernesto da noi? Che voleva? Niente, io prima di parlare brevemente di Barbareschi, volevo per calmare sensibilità della paranza. Sì. Pronto? La sentiamo, dica, la sentiamo. La stupidaggine, la dica, sono su tutto. Per calmare la paranza volevo fare un ultimo spunto sulla sodomia della Ferrari. Ancora? Cosa sodomia? No, ma solamente per dire una cosa, che se l'atto sessuale si riduce solo alla sodomia e non c'è altro, è il massimo atto di sottomissione della femmina al maschio. Solo quello, come fatto sin d'ora. Ma non è così, ma questo, poverino, poverino, questa è la sua mentalità, Ernesto, non è affatto così. È un poveretto. Ma non trova piacere la donna nella sodomia, fa solo un favore all'uomo. Ma cosa dice Ernesto? Ma che dice? Ma lei è pazzo, poverino, è ma pazzo. Ma provi a parlare con le signore che l'hanno fatto. Ma no, adesso... fatto? Ma lei è bisognoso di cure, Ernesto. Senta, volevo fare chiudere la telefonata anche perché devo andare a vedere la partita Milan-Lazio adesso. Sì. Ah, per carità, perché non vorremmo mica disturbarla. Vada, vada. Volevo chiudere dicendo una cosa su Barbareschi. Sì, anche prego. Comodi. Prego. Dell'intervento di Barbareschi che ho sentito all'inizio trasmissione si potrebbe dire poche idee ben confuse, nel senso che si capisce che sotto sotto, proprio nelle parti basse, sì, lui è pentito di aver lasciato la PDL. Per nelle parti basse, ma lei è malato, Ernesto, è fissato. Nel senso in fondo, Quindi, ma quante volte non lo usa lei, scusi? No, beh, quindi... adesso ragazzi, non scendiamo su questi. No, il cervello, intendo. Ah, non il cervello. È il cervello. Forse il suo pentimento scaturisce dal fatto che c'ha un grosso destino di armata a Brancaleone da Casini a Ventolo per fare dell'anti-berlusconismo. Tutto qua, ho finito. Bene Ernesto, buona partita, grazie del tempo che ci ha concesso. Laziale lei, eh? Eh sì, vabbè, stasera una serata di grande sofferenza. Io non sono tifoso, però sono simpatizzante della Roma, della Lazio e del Napoli. Bene. Quindi me le godo tutte e tre. Bene, grazie. Grazie a lei, buonasera. Confusione pazzesca. Loris da Padova, anzi no, prima c'era Roberto da Roma. Prego. Buonasera. Dica. E niente, volevo spiegare a quel signore che ha appena attaccato che veramente una donna si può possedere anche da dietro senza bisogno che sia sodomia, perché la cosa mi pare francamente paradossale. No, beh, la scena di quel film aveva un riferimento diretto alla, come dire, no, alla sodomia, o no? No, secondo me no. Proprio no. Ma io ricordo poi di non sì. Non mi pare nelle corde di Moretti, insomma. Quindi. Vabbè, ma... Poi che c'entra il fatto che Moretti è comunista? No, ma quello non c'entra niente. Questo no, era Ernesto che delirava, insomma. Sì, appunto. Mentre quello dopo mi pare il classico caso di avvocato Sabona che perdemo la causa, insomma. Cioè quale? Ma quello che ha apostrofato tutte le donne che votano per Berlusconi, che sono delle zoccole, francamente. Io non voto e non voterò mai per Berlusconi, ma tuttavia, insomma, bravo. C'è un limite a tutto. Sì, su questo arrivare non posso... a dire questo, quindi. Non Luciani, può... stasera sono con lei, con il cuore sono con Parenzo, naturalmente. Ma... Ma guardi che io e Parenzo spesso la pensiamo allo stesso modo, non vorrei io vi sento tutte le sere. Non vorrei deluderla, insomma. No, non mi delude affatto. Io vi sento tutte le sere e per me siete un'ottima compagnia. Grazie, molto gentile. Buona serata. I complimenti fatti così vi fanno sempre piacere, caro Parenzo. Giorgio da Biella. Anche se noi preferiamo sempre le bastonate, come sai, come preferiamo no, sempre Ernesto, le pietre. Le stupidaggini di Ernesto sono fantastiche. Giorgio, dica pure. Crociani. Sì, più o meno. Buonasera. Allora, prima di tutto le volevo dire una cosa semplicissima. Io un po' che chiamo, ho chiamato già una volta quando c'era Teresio con quel comunista. Sì, ancora, ancora ma stai spuntando tutti in questi giorni. Telese, no Teresio. Lei storpia adesso, i nomi. Adesso lei cosa fa? Per imparzialità lei mi invita permanentemente un altro comunista. E chi sarebbe? Perché, chi sarebbe? Ma lei non è imparziale, perché non prende... Ma chi sarebbe il comunista? Ma quel Parenzo lì, ma chi è quello lì? Ma come abbia pazienza, ma si offende tutti. Vabbè. Ma addirittura adesso l'ultimo ascoltatore ha detto così che non avrebbe mai votato per la destra, per Berlusconi, e lui di dietro, bravo, ma chi è? Ma chi ma è? No, ma chi c'era un ragionamento, ma perché non ma collega le sinapsi? Ma lei deve stare zitto, lei non può parlare perché lei è un comunista fregatato. Ma no, ma lei ci vuole la croce rossa, ci vuole per lei, non per gli ascoltatori. perché lei è di un'antipatia che, guardi, veramente io parlo con parecchia gente, ma non c'è nessuno antipatico come lei. Infatti lei chiama però perché è stimolato da questa antipatia, si vuole sfogare, è impazzito per questa cosa. Per avere il piacere di conversare con lei, non certo con parenti. Prego, ascolti, se lei è imparziale, perché non mi invita anche qualche giornalista di destra? Ma come mai sempre quelli di comunisti? Ma la smetta di dire stupidaggini! Ma lei è un comunista! Lei è sciocco! No, e lei invece è un rimbambito, se io sono sciocco. Vabbè, adesso... No, abbia pazienza, ma allora, cioè, lui si permette di offendere tutti, di criticare tutti. Oh, non c'è una cosa che dice sì, va bene. Io lo sento parecchie volte. Non c'è una volta che Parenzo è d'accordo con quello che fa questo governo. Ma neanche sulle cose fatte bene. Sono d'accordo con quello che fa Brunetta. Ma lei mi fa soltanto ridere, ma lasci perdere. Lei è prevenuto, Giorgio. Ma abbia pazienza, ma se uno come Parenzo che dice che preferisce andare a cena, non con Briatore, ma con quell'altro che neanche più mi ricordo. Sartori, questo francamente. Però ognuno ha i suoi gusti, abbia pazienza. È solo uno snob. Lei è un parvenu. Ma lasci perdere, ma che futuro ha quell'uomo là? Ma quello là è il nostro futuro. Ma che futuro? Ma il nostro futuro è uno che ha un piede ormai nella fossa. Questo è il nostro futuro. Ma il nostro futuro sono i giovani. Il nostro futuro, glielo dico io, mio caro Parenzo. È frase importante. Il nostro futuro sono i giovani. Ma lei è un genio. Oltre a Berlusconi non c'è nulla. Ma lei è un intellettuale. Scusi, no, vorrei che lei mi ripetesse questo concetto. Oltre a Berlusconi cosa c'è? Non c'è nulla. Niente. È un genio. Dopo Berlusconi che c'è? L'Italia sprofonda, che succede? Aspetti, Cruciani, tempo fa anche lei era d'accordo con me. Veramente io non ho mai detto una cosa del genere, abbia pazienza. Non dico io cosa mi ha detto lei, voglio sentire se gli Stati Uniti. Io gli ho chiesto se c'è un'alternativa oggi a Berlusconi, lei mi disse no, non c'è. Ho capito, quello è un altro discorso, però non è che ho detto che dopo Berlusconi c'è nulla, ho detto posso confermare che in questo momento non c'è un'alternativa a Berlusconi, ma questo mi pare evidente, insomma. Glielo ribadisco anche al dottor Lorenzo. Ma guarda che Parenzo lo sa benissimo pure lui che in questo momento non c'è qualcuno che lo possa sostituire, nel senso che non c'è un'alternativa, un'opposizione unita con un nome. In questo senso allora intendevo. Perché continua a infierire su questo povero uomo? Perché ma non infierisco. Ma nessuno infierisce. Succede? Quale povero uomo? Lei è un povero uomo, non Berlusconi. Che dice? Ma perché Berlusconi che cosa ha fatto di male? Ve lo dica, che cosa ha fatto di male? Giorgio, senta. Comunista, canta Parenzo. La rotta, avanti popolo, fuori il cannone, rivoluzione. Vogliamo far risorgere, vogliamo far Eccoci, 20:21, 800 24 0024. Marco, provincia di Trento, buonasera. Buonasera, signor Cruciani, buonasera. Dica. Allora, praticamente qualche giorno fa ero in un bar, stavo bevendomi un caffè e stavano ascoltando la Zanzara. Sì. Qui in un paesino della Valle di No. Beh, stupendo, meraviglioso. Per la felicità dell'ascoltatore di prima, un anziano del paese, insomma, che ancora si parla il dialetto, no? Sì. Ha commentato una situazione un po' simile a quella di prima, dove il signor Parenzo parlava sopra l'ascoltatore, quasi infastidito. Posso dirgliela in dialetto, vero? Come no, certo. E in dialetto ha detto: Parenzo, strupete cagnappa, che mi pare se porcetta nella panara. È stato un momento. Traduzione? La traduzione no. Vada pure liberamente, Marco. No, non è offensivo, nel modo più assoluto. È molto, è, come dire, una cosa proprio antica, veramente antica. Praticamente, la panara è dove uccidono il maiale. Allora? E il maiale, quando lo mettono nella panara, lo mettevano una volta, insomma, gridava come sopra tutti, gridava all'impassata. E lui ha detto: Parenzo, chiudi quella bocca che mi sembri un maiale nella panara. Cioè, capisco che magari voi, però è stato molto divertente il no momento. No, ma è divertente, guardi che si diverte pure Parenzo questa no, cosa. No, ma io senti... non mi guardi, no, nel momento del bar è stata una risata generale, perché chiaramente è vissuta da, da paesani, è stata simpatica, insomma, volevo dire, comunque Parenzo è molto simpatico, al di là di tutto, adesso non volevo... No, ma si può, grazie, ma si può pensare diversamente, non è che dica no, in quel momento, sì. Signor Parenzo, non lasciava parlare l'ascoltatore, questo anziano che voleva sentire quello che diceva, si è offeso e l'ha assistita in quella maniera, va bene. Comunque è stato simpatico. Bene, volevo... grazie, grazie Marco, grazie. Bellissimo. Ambrogio da Lodi. Buonasera Cruciani. Dica. Senta, volevo commentare quello che lei ha letto in radio relativamente alla dichiarazione di Pannella. Sì. Mi sembra che il grande anche questa volta abbia centrato il punto. Cioè? Cioè, diciamo, il comportamento della magistratura, che è più tendente di altri, quasi lo stesso Berlusconi, a avere un comportamento al limite del reato, diciamo, tiene in piedi un po', giustifica quel vittimismo di Berlusconi. Diciamo che quello che abbiamo scoperto in questi giorni. Scusi un attimo. Chi è? Poi te lo dico. Pronto? Signor Brigandì, signor Brigandì. Quanto adoro quando fai blitz. Bellissimo. Matteo Brigandì, leghista, componente radio del CSM. Questo è il tuo contatto. Non risponde, però. Risponde? 3. Basta, via, sennò si scopre, si disvela abuso il numero e noi non facciamo queste cose, non le facciamo. Ambrogio, che stava dicendo? Perché il signor Brigandì è al centro di una questione molto importante, come sapete, no? Sì, io da tempo che cercavo di chiamare in radio, perché il tema, diciamo, della magistratura mi interessa particolarmente. Direi che su tutte le chiacchiere che si sono fatte in questo periodo per sapere cosa succedeva ad Arcore, cosa non succedeva, eccetera, i due fatti certi che sono emersi, secondo me, sono questi due. Il nostro Presidente del Consiglio è un libertino, si permette comportamenti sicuramente fuori luogo, non adatti alla posizione, censurabili in mille modi. L'altra certezza, tra le tante incertezze, è che la magistratura sicuramente intende svolgere un compito di selezione della classe politica, cioè proprio vuole selezionare. Perché purtroppo abbiamo dei comportamenti storici, documentati, certi, di comportamenti omissivi, laddove situazioni importanti che riguardavano altri leader, parlo dei top, più quel di secondo piano, parlo dei top, non sono state perseguite, pratiche sono state insanzionate relativamente a molte questioni. Questo è veramente... Sì, però sa che le dico, io sono d'accordo su quando qualcuno parla di un accanimento nei confronti di Berlusconi, però non vado oltre, cioè poi la dietrologia da questo punto di vista non mi appassiona. Cioè, come fa lei a dimostrare che si potevano aprire tante inchieste su molti personaggi e non sono state aperte, no? Come fa a dimostrarlo? Me lo dica, Ambrogio, perché io sono curioso, no, per carità, dico, perché che ci sia un accanimento nei confronti di Berlusconi, questo è, io sono il primo a dirlo ed è abbastanza evidente, anche se evidentemente non probabile se non attraverso la deduzione, non attraverso prove concrete. Per quello che riguarda invece la selezione, cioè questo non lo voglio indagare, quest'altro vado avanti, quest'altro non vado avanti, io è complicato. Ci sono elementi molto, molto concreti per poterlo dire. Siamo in radio, non voglio fargliela lunga. No, me ne dica uno, così mi faccio un esempio. Che fonti ha? Abbiamo, insomma, che ha fatto epoca, proprio che secondo me, francamente, a suo tempo è stato un vero e proprio golpe. È stato il caso D'Alema Fassino. Lì abbiamo un amministratore delegato che annuncia formalmente e viene, e purtroppo è stato usato quel mezzo che non mi piace, ma c'era, l'intercettazione, l'amministratore delegato, che formalmente, proprio in maniera formale, decide di compiere quel reato, che è quel reato contro la normativa finanziaria, di voler fare un'opera in maniera illegale. No, però scusi, in quel caso secondo lei non c'è stato nessun magistrato che ha agito contro esponenti politici dei DS? C'è stato uno che ha provato, ha perso il posto di lavoro, è a Cremona a fare indagini sull'albero di biciclette. Non le dice niente questo? Ma chi? Questo l'ha deciso il pesce puzza dalla testa. Questa cosa l'ha decisa il CSM, ha preso il giudice e l'ha rimosso. Cruciani, è clamoroso. Non c'era clamoroso. Nessun reato di insider trading, se è quello a cui fai. Va bene, va bene, grazie ad Ambrogio. Gaddo da Pisa, buonasera. Buonasera, fantastico. Buonasera. Dica. Buonasera, Cruciani. dunque, volevo intervenire sul Presidente del Consiglio, sul pensiero del Presidente del Consiglio nei confronti della donna, che mi trova assolutamente d'accordo, nel senso che più volte lui ha dichiarato che il suo pensare della donna deriva dalle letture, da per esempio Erasmo da Rotterdam, dall'Elogio della Follia, per cui lui pensa che la donna sia qualcosa, sì, è vero, di effimero, ma al tempo stesso di allegro, di gioioso per un uomo. Quindi non me la sento di condannare il Presidente del Consiglio per quello che pensa delle donne o per quello che le donne pensano che pensi, bensì mi sento di condannarlo perché comunque ha fatto qualcosa che secondo me è riprovevole per un Presidente del Consiglio. Quindi al di là di quello che può pensare per la donna, certamente quel che ha fatto è condannabile, ha messo la berlina l'Italia intera nei confronti del mondo, e quindi ecco, per questo direi che potrebbe anche dimettersi. Detto questo, io così chiederei proprio così pubblicamente la candidatura di Emma Marcegaglia come ministro, come Presidente del Consiglio, perché la vedo un'innovatrice, la vedo una donna straordinaria, la vedo una mente nuova, la vedo veramente, con lei sarebbe un'ondata di modernità nella politica. Io non so se lei sia ironico o meno, non credo, però lei deve anche sapere che questa qua è la radio di Confindustria, siccome siamo piuttosto sensibili a questo argomento. No, va benissimo, se lei è convinto, mi pare che lei sia un po' fuori strada, ecco, non so, leggermente fuori strada, poi uno può proporre chiunque, ma leggermente fuori strada non perché la signora Marcegaglia non abbia qualità di questo tipo, semplicemente perché proprio anche gli interessa farlo, poi è un discorso proprio così totalmente astratto, potremmo pensare lì. Però è vero, però c'è bisogno di veramente di uno sforzo totale. Vabbè, su quello non c'è dubbio. Andiamo alla borsa e ci sentiamo subito dopo. 800 24 00 24. Sono ladri, e allora perché la magistratura italiana non fa processi anche a questi farabutti? Sono semplicemente scoglionato e mi auguro che la magistratura italiana si passi tutti al setaccio questi farabutti. Il signor D'Alema, che ha proposto le elezioni anticipate, sappia che non verrà più eletto. E così Casini, perché Casini è un puttaniere, ha sbattuto via sua moglie e ne ha preso un'altra. Cini altrettanto. E allora mucchiamolo, mettiamoci delle persone serie anziché avere 1090 o qualche cosa del genere parlamentare. Duce, per te, noi abbiamo. Se domani lei avesse un figlio di 15, 16, 17, 18 anni, sì, che deve andare a scuola, e sa che in quella scuola c'è il preside che è un pederasta o il professore che è un pederasta, lei manda volentieri il suo figlio in quella scuola? Beh, certamente no. Oh, e io devo mandare, e io devo seguire, devo obbedire a una massa di masnadieri di cui il 36-37% sono pederasti al nostro Parlamento italiano, senza parlare dei pedofili. Siamo molto attenti, perché questa magistratura ha creato un precedente, grazie a Dio, e io mi auguro che questo precedente sia il primo anello di una lunghissima catena di altrettanti processi, di altrettanti controlli, di altrettante panoramiche, la chiami come vuole, raggi X, che dovremo mettere i nostri 1008 uomini politici, parlamentari, che devono essere messi anche loro ai raggi X, anche loro devono essere controllati nel più intimo della loro famiglia. Carlo da Milano! Ma chi è questo qua? Beh, perché tu eri andato via forse? Pronto? Tu eri andato pronto? Via? No, dove c'è una... andato? Eri andato via, non l'avevi sentito ieri sera? Ieri? Ah, questo ha chiamato ieri? Sì, ma non l'hai sentito? E purtroppo no, mi sono arrivati messaggi su Facebook, su, non avevo capito che era questo livello di follia. Grandissimo questo personaggio. Beh, un grandissimo. Un tale Carlo da Milano, tanto c'è un altro Carlo da Milano in linea, ma non credo sia lui, naturalmente. Buonasera. Ma è lei quello di ieri, no? No, lo sono io. Senta, voglio dire una cosa, voi siete due fenomeni. Adesso non esageriamo. Perché avete, no, adesso siete fenomeni preparati. sono altri. Fenomeni sono quelli da baraccone, amico. Però solo una domanda, allora, sì. Siete preparati? Avete i tempi giusti, veramente uno con l'altro, anni di uno studi, con... Ecco, e siete anche cazzari il giusto, che per me è un complimento, siete cazzari il giusto. Però vi deve dire, ma perché Parenzo è sempre in strada, poverino? Lo so, Parenzo non è sempre in strada, in questo momento è in camera in albergo, perché fa una vita molto particolare, senza disvelare niente sulla privacy di Parenzo. No, ma puoi dire tutto. Fa avanti e indietro tra Milano e Roma con la famiglia nei dintorni di Siena, capito Carlo? Per cui è sempre un po' in mezzo alla strada, insomma, questo è il punto. Senta, ma io non so, due cose da dire rapidamente. Allora, una è questo. Io non capisco una cosa. Cioè, quest'uomo, cioè Berlusconi, viene dato per bollito, rimbambito, scoppiato e tutto quanto, no? Però sostanzialmente, cioè, lo vogliono, continuo a dire, vai via, ok, ci può anche stare, ma cioè, dire vai via così, senza un'apparente ragione e così a spizzichi e bocconi, se veramente lo voglio mandar via, bisogna fare quelle cose che in tutti i paesi normali si chiamano elezioni, si qua è d'accordo, no? Allora, perché non si trovano in uno di quei, tutti questi qua insieme, tutti però, non ne voglio una alla volta, tutti insieme. Si trova in un bel ristorante di quelli che Parenzo scusi un attimo, aspetti. Sì. Pronto? Onorevole Brigandini? Sì. Buonasera, la Zanzara, Giuseppe Cruciani, salve, come sta? Buonasera. Parenzo, ci sei tu? Sì, tutto bene, sono pronto. Le possiamo fare qualche domanda, signor Brigandini? Ha attaccato, che ha fatto? Vabbè, adesso riproviamo, ma com'è possibile? Attaccato perché subito. Perché ha chiuso? Un membro del CSM, laico. Ma senza nemmeno sentire, un buonasera, arrivederci, un vatte la pesca, vaffanbicchiere, una cosa di questa. Vaffanbicchiere. Ma no, non è il caso, non sono modi questi, no. Ma no, ma poi un po' dovrebbe chiarire, solo due domandine. Due domandine, semplici, il fascicolo è passato o no? È passato o no tra le sue mani prima di andare al giornale? Una domandina così, insomma, banale. Gli hanno contestato un semplice abuso d'ufficio, cioè in base alle sue funzioni lui avrebbe, secondo la procura, preso questo documento dagli archivi del CSM e dato all'ottimo Sallustri. Che sarà mai? Sallusti, no, che Sallusti, sarà mai? Sallusti. Va bene, allora Carlo, cosa voleva dire? No, volevo dire che Parenzo, che conosce bene i locali della politica, organizzi lui una sera una bella cena con tutti quelli che hanno un partito, partitino, partitone, che vogliono mandar via Berlusconi, si mettono d'accordo, la mattina dopo vanno, come in tutti i paesi normali, dal Presidente della Repubblica e dicono... Ma perché devo fare io? Scusi un attimo, Carlo, riproviamo, frega a me della cena. Pronto? Pronto? Sì, cercavo l'onorevole Brigandì. Non c'è, con chi parlo? Sono Cruciani della Zanzara, salve, Radio 24. Oh, salve. Salve, come sta? No, mi spiace. Lei è della segreteria? E lei è della segreteria, perché ho chiamato prima, ho parlato con lui, poi ha abbassato il telefono. Però adesso ha lasciato il telefono qui e quindi io ero qui e ho risposto io. Dunque non vuole parlare con noi, questa è la sostanza. Non so cosa dirle, io ho trovato il telefono e ho risposto. Ma scusi, come ha trovato il telefono? Ha trovato il telefono così per caso? Perché l'ha trovato lì? La ringrazio. Arrivederla. Scusi un attimo. Ma il telefono... Una cosa pazzesca. Ha trovato lì un telefono e ha risposto. Come? Vai, io dico... Scusi, della segreteria, sì. E il dottore c'è? No, ma no, non lo so, ha risposto dottore il telefono. Perché danno delle versioni così strane? Non è più semplice dire no, il dottore non vuole rispondere. Infatti, non vuole parlare, non parlo. Cioè, uno dice non parlo. Ho capito, capiamo, abbiamo capito, ci ritiriamo in buon ordine, no? Come dire. Beh, no, ora riproviamo ancora. No, ma la cosa è una cosa pazzesca. Cioè, lo chiamiamo, abbassa il telefono quasi per paura, lo lascia sulla scrivania. Dopodiché richiamiamo, risponde la segretaria. Cioè, è una cosa pazzesca. La segretaria, sì, ma lo so, ho trovato qui il telefono che squillava. Anche la versione, ma si mettono d'accordo sulle versioni. Scusa. cose incredibili. Carlo, allora, Carlo, scusa. Allora, dicevo, no, ma non è che voglio che Parenzo, il discorso che Parenzo, essendo un uomo di strada, conoscerà bene i locali buoni, immagino, a Roma, no? Immagino. Ma quello che ne frega a me di fare una cena con tutti quelli che odiano. Allora, il discorso è, caro Cruciani, io ne ho piene le balle di questi qua che a turno, una alla volta, dicono se ne deve andare. Ma perché se ne deve andare? Soprattutto, perché no? Perché allora non dicono facciamo le elezioni? La realtà è che hanno paura che il mondo li prenderebbe per il culo, perché riuscirebbero ancora a perdere le elezioni nonostante tutto. C'è del vero, c'è del vero, però c'è del vero in quello che dice Carlo, che no, non c'è chiunque, chiunque dice via Berlusconi, poi non dice, alcuni lo dicono naturalmente, subito le elezioni, perché vogliono arrivare alle elezioni nella miglior condizione possibile. Sono d'accordo, ma il prima non volerle è Berlusconi. No. Beh, anche Berlusconi un po' resiste, perché nessuno le vuole. Il dato politico è che nessuno vuole andare alle elezioni, d'accordo? Questo è il punto. Beh, forse la Lega sì, Ma neanche la Lega, perché voglio dire, sì, perché magari non otterrebbe, magari ci vuole andare dopo aver ottenuto. Ma non otterrebbe il federalismo, perché non ci sarebbe una maggioranza in grado di darglielo, quindi nessuno vuole le elezioni. Parenzo, che è un uomo che conosce la politica, sa benissimo che se tutti quanti, cioè tolto Berlusconi, vanno da Napolitano e dicono noi vogliamo le elezioni e siamo la reale maggioranza del paese, a questo punto Napolitano si rende conto che tutti in realtà vogliono elezioni, compresa la Lega, e a quel punto sostanzialmente non potrebbe far altro che ragionare sulle elezioni. Invece uno si sveglia la mattina e dice via Berlusconi, va bene, andiamo via Berlusconi, e allora? Cioè, capito? Cioè, mi sembra, a presente quando uno c'ha il pallone, quando uno organizza le squadre all'oratorio, no? Allora, quello che ha il pallone. No, ma Carlo, è vero, devo dire che in Italia la sindrome dell'opposizione, anche quando il centrodestra era l'opposizione, è sempre stata quella di dire beh, via il governo, via Prodi, via quell'altro. È sempre stato così, non c'è mai stata nessun tipo di collaborazione, c'è sempre stato uno scontro frontale, almeno da 15 anni a questa parte, ma anche prima, uno scontro frontale all'ultimo sangue. C'è il tuo governo, un governo antidemocratico che viola i diritti, un governo di ladri, buffoni, eccetera, eccetera. È sempre stato così, cosa, sempre. Un'altra cosa, Cruciani, poi la lascio. Questo è un piccolo appunto, oppure un ragionamento. Io non so quanto lei sente l'opinione pubblica, non so, per dirle, va in tram, va nei bar. Guardi, io prendo ogni tanto i mezzi pubblici, ma spesso sono in motorino, però non li disdegno i mezzi pubblici. Allora, le dico una cosa. Ma non è che reputo, cioè andare al bar o sulla metropolitana e sentire la gente, non è che sia il polso della situazione, queste sono stronzate, lei lo sa bene, no? Però le spiego una cosa. Prima, per esempio, ha intervistato Barbareschi, a cui invidio l'eleganza e la ex moglie, la rovere gnocca mostruosa, e qui si è andato tutti, no? Ecco. Però voglio dire, è drammatico che uno che ho visto stasera che con il telefonino faceva le foto alla presentazione di Future Libertà, secondo me, io capisco che lei deve dare spazio alla politica in teoria nazionale, ma guardi che c'è la gente di questi qui, cioè molto più interessata realmente agli amministratori locali, perché le assicuro che la qualità della vita delle persone dipende sempre di più da quello che combinano i sindaci, da quello che combinano questi quattro... Ma su questo non c'è dubbio che la vita quotidiana delle persone è condizionata soprattutto dalle amministrazioni locali, però insomma le amministrazioni locali incidono su certe cose, i legislatori a livello nazionale su altre. Grazie. Traffico. L'Europa, noi non la dimentichiamo l'Europa mai. Incide moltissimo. Non la possiamo dimenticare mai l'Europa. Mai la dimenticheremo. Traffico. Ma insomma, devo dire la verità, Barbareschi ne ha sparata una grossa, caro Parenzo. Nell'inchiesta, te la ripeto, nell'inchiesta, siccome è accaduto praticamente 2 ore fa, noi siamo una trasmissione che è venuta per 2 ore e mezzo, ti rendi conto? Lo sai bene tu che hai l'orecchio un po' disturbato. No, lo so, ma il sabato e la domenica posso dire anche che mi manchi, perché non facciamo anche sabato e domenica? E infatti, diciamo, fai un appello a Tamburini, direttore Tamburini, fallo adesso l'appello, direttore Tamburini. Ci può direttore mandare? Tamburini, facciamo una zanzara weekend, il sabato e la domenica, e dove Cruciani si collega da casa sua, io da casa mia... e dialoghiamo per un paio d'ore sui fatti del weekend, cioè facciamo il punto sui fatti del della settimana. Tu vuoi una zanzara come in onda per la set, una zanzara esatto. Weekend, una zanzara weekend, appello a tamburi, tutti che ballano bellissimo, tutte le famiglie riunite in macchina che escono dalla messa, zanzara bellissimo. Allora boom boom Barbareschi titola da Gospia. Nell'inchiesta ci sono delle foto fatte in casa di Berlusconi con strumenti professionali usati per lo spionaggio. Gli investigatori hanno fatto delle foto e sono notizie certe, non sono foto fatte dalle ragazze con i telefonini, ma foto scattate con strumenti professionali. Apparecchi costano più di 25.000 euro l'uno. Non è più un paese libero. Se dovessi vedere una foto di Berlusconi io come cittadino italiano mi sentirò offeso. Lo ha detto la zanzara? Lo ha detto la zanzara, questo insomma. Lo dice Dagospia? Lo dice, sì, certo che lo dice. Bene, Dagospia, ottimo, Dagospia. Bravo Dagospia. Super corretto da questo punto di vista. Dove andiamo? No, da tutti i punti di vista, No. Dove andiamo? Maria Grazia da Bolzano. Dottor Cucciani, buonasera. Io però un altro tentativo con questo brigandino farei, perché è una cosa pazzesca quella sì, che è successa. Sì, no, richiamiamo anche la segretaria. Poi adesso ci proviamo. Il marito della segretaria. Posso adesso parlare? Prego, Maria Grazia, dica. Scusate, la voce mi sono ammalata. E vabbè. Succede in questo periodo soprattutto. Sì. Il dottor Parenzo è grandissimo. Adesso stasera però non ci trattate troppo bene stasera. No, io volevo solo fare una piccola cosa, un piccolo intervento. Io faccio il medico da 35 anni, ma sì, ho sbagliato professione. Io torno a casa ogni sera con l'ansia, ho 2000 assicurazioni, i pazienti che si lamentano sempre. Dovevo entrare in magistratura. In magistratura dovevo entrare. Perché, dice lei? Perché avrei fatto quello che avrei voluto, non avrei fatto le mie assicurazioni, avrei fatto tutto quello che avrei voluto. Ah, la responsabilità, lei la dice. Responsabilità, che non è cosa da poco. No, non è cosa da poco, per carità. Però, sa, c'è una differenza tra i medici e i magistrati da questo punto di vista. Un po' c'è una differenza. Secondo me è esagerata anche la questione sui medici, per carità. Bravo, bravo. Da questo punto di vista siete sottoposti a troppe pressioni, eccetera. Siamo. E nessuno ci appoggia. Però vabbè, questo è un altro discorso. Però i due campi sono molto diversi, sono molto il diversi. Il magistrato, ma vuole mettere. Cioè? Se fossi una donna magistrato avrei avuto un altro tipo di vita, forse avrei potuto avere una famiglia normale, forse avrei avuto più tempo per me, ecco, tutte queste cose. Io non avrei rischiato nulla. Cosa dice lei? Beh, nulla, qualche magistrato ha rischiato, diciamo che l'hanno ucciso qualche magistrato. Beh, insomma, poi dipende se si occupa di cause civili. Dipende di che cosa tesoro, si occupa. Tesoro, bocconcino. No, ma tesoro mio, cara dottoressa, se lei si occupa di cause civili al massimo le rigano la macchina se dà torto a uno. Sì, cause civili. Sulle questioni penali lei sa che c'è qualche un signore che si chiama Falcone, ad esempio. Cioè, ma io non Falcone è un caso a parte, non parliamo di Falcone, ci togliamo il cappello. Però no, lei dice comunque che i magistrati quando sbagliano non rispondono, e voi sì, questa è la sostanza. Andiamo al sodo. Questo in parte io parlo però per il caso Falcone. Io parlo proprio per questa cosa, non a caso, insomma, l'avete capito. Insomma, non è possibile alzarsi una mattina e decidere a tavolino di fare, di trovare e di cercare. È una cosa inaudita, nonostante io non voti quel partito, però fa paura. Fa non è andata paura. Esattamente così, però. Comunque. Beh, comunque questa è l'opinione dell'ascoltatrice che dice si confondono sempre i PM con i giudici, questo è il punto. No, ma lei parla dei PM, a parte che come sai ci vorrebbe da questo punto di vista una vera separazione delle carriere. Sì, ma questo è un discorso verissimo, perché nei fatti sono tantissimi casi in cui i GIP non danno ragione al PM e chiudono l'inchiesta, quindi voglio dire, le garanzie del nostro sistema ci sono. Sì, io parlo dei PM, scusate. Io parlo ecco, dei PM. Ma non siamo dell'Egitto di Mubarak, però. Ma non lo so, mi sa che ci stiamo avvicinando, non troppo lontano, non so. Bene, Maria Grazia, la ringrazio, devo dare spazio ad altri ascoltatori. Loris da Padova, buonasera, velocemente, Loris. Sì, buonasera. Dunque, volevo una riflessione un po' pacata, che è un argomento abbastanza pesante, sulla Began, che ha dichiarato a Sky che gli inquirenti hanno cercato in tutte le maniere di farle dichiarare che Berlusconi pagava le prostitute. Allora io mi domando che paese è che può dirsi civile se una persona, come succede in Italia, che è testimone, non può portarsi un avvocato, un testimone, per fare le dichiarazioni. Perché non può? Cioè, la Begana ha dichiarato che gli avevano anche presentato un foglio da firmare in cui faceva queste false dichiarazioni. E le dico, è successo anche a me, anch'io non ho firmato, però succede anche questo. Allora, voglio dire, se le indagini vengono fatte in questa maniera, che il singolo inquirente, che magari non è il magistrato, eccetera, però per sue smanie, per sue interessi politici, non lo so, per la sua follia, va a cercare di far questo, siamo sicuri che le inchieste vengano fatte bene? Voglio dire, cioè, guardi, io non so, per capire se questa inchiesta è stata fatta bene o no, non mi sembra che si possa dare un giudizio adesso. A me fa impressione un'inchiesta in cui si cerca di sapere da una donna, è un'inchiesta sulla prostituzione, naturalmente, dunque si chiedono, si fanno domande di questo tipo. Esatto. Ma si può capire però l'ascoltatore, l'ascoltatore lo posso capire, perché effettivamente un'indagine in cui vai a chiedere a tutte le ragazze che tipo di rapporto c'era tra lei e Berlusconi è un'indagine... Boh, non lo so, io... Ma che discorso è? Beh, se fosse un'indagine sulla raccolta dei datteri, avrebbero detto, scusi, no, ma lei ha raccolto il dattero? Dice, sì, l'ho raccolto, no, non l'ho raccolto. Quindi, scusi, che le risulti, qualche donnina è andata lì e poi è stato fatto, cioè, gli sono stati dati 5.000 euro, vive nella residence dell'Olgettino, dice, sì, chi le paga l'affitto? È il dottor Spinelli. Chi è il dottor Spinelli? Il cassiere di Berlusconi. Ah, ho capito, va bene, grazie, questa è la sua dichiarazione. Sì, si parlava di raccolta delle fragole, magari gli chiedevano. Loris, ha capito? Questo è il punto. Sì, ma perché non si può portare un testimone? Una persona che allora, questo... il teste, adesso il non teste. Entriamo nei dettagli, ma no, ma è semplice, un testimone, siccome è obbligato a dire la verità, saprà quello che ha vissuto e quello che ha visto, quindi non ha bisogno dell'avvocato. Stava a sandir, no, amico mio? Cioè... Bene, Loris, Gualtiero da Roma, buonasera. Non ci mettiamo a discutere di queste cose, queste tecniche processuali o di queste tecniche difensive, eccetera, eccetera. Gualtiero da Roma, dica. Buonasera Cruciani, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Niente, volevo solo commentare quella notizia che abbiamo sentito prima dal TG della 7, cioè che sembrerebbe il ministro degli esteri indagato perché ha risposto a un'interrogazione parlamentare, ha pubblicato così delle informazioni ricevute, che siamo al paradosso veramente. Io non so se la magistratura è veramente imparziale così come dovrebbe essere, oppure se c'è evidentemente una frangia della magistratura. No, guardi, io non lo so, Gualtiero, la frangia della magistratura, c'è stata una denuncia, è stata un'aperta un'inchiesta, ma non è che è indagato Frattini, che è colpevole, c'è una denuncia fatta sulle vicende delle carte, come sono arrivate, come non sono arrivate, al Ministero degli Esteri, credo che sia su questo. L'indagine vuole semplicemente... Cioè non è che Frattini indaga, non è che è indagato e dunque è già colpevole, è indagato... È non so accertare perché Frattini ha chiesto... Sì, ha ma no, con la, sì, ho capito, però devo dire la verità, su ogni cosa entra la magistratura, su ogni cosa... E voglio dire, ma se il Ministro degli Esteri... Ma qual è il reato in questo caso? Esteri. L'ipotesi di reato, quale sarebbe? In Italia qualsiasi cosa può rientrare dentro un'ipotesi di reato. Ho capito, qualsiasi cosa può rientrare dentro un'ipotesi di reato, ma è questa l'assurdità. Qualsiasi, se tu sei un ministro e compi un abuso d'ufficio, vuol dire che ho capito, certo, funzione, ho capito, ma capisci che qualsiasi cosa può rientrare in un reato. Ma infatti non interessa il reato, mi interessa giornalisticamente sapere perché il ministro degli esteri si è interessato a una vicenda processuale, cioè a farsi dare delle carte che la procura non era interessata ad avere. È curioso, no? Sì, è ma curioso. Mi sembra più una cosa che riguarda la politica, non la magistratura, hai capito? Non la magistratura, è quello. È quello il punto. Però a fronte di una denuncia la magistratura deve indagare, sì, no? D'accordo, è dunque indagato Frattini, e dunque giù pagine di giornali, Frattini indagato, la magistratura, possibile abuso d'ufficio, cose che la maggior parte delle volte finiscono nel nulla. Stefano da Roma, buonasera. Buonasera, salve, ho sentito in trasmissione prima da voi che il PD appoggerebbe eventualmente un nuovo governo formato da premier come Maroni. Sì, lo dice Enrico Letta, non è che lo dice il PD, lo dice Enrico Letta. Sai, nel Partito Democratico non è che c'è una voce univoca su queste cose. Vabbè, sono voci di corridoio, comunque. No, voci di corridoio, voce di Enrico Letta. Quello che diciamo è soltanto un commento, ma non stride il fatto anche nei 150 anni della nascita dell'Italia avere come premier comunque un politico che fa parte di un comunque della Lega che ha nel suo statuto l'indipendenza della Padania, è comunque un qualcosa che diciamo, Stefano, per me lasciamo perdere i 150 anni della storia d'Italia e l'indipendenza della Padania. La cosa ridicola è che Letta dica siamo disponibili anche a un governo guidato da Maroni, insomma, dopo tutto quello che dicono sulla Lega, eccetera, eccetera. Va bene, caro Stefano, abbiamo concluso. Parenzo, ci sentiamo già domani. Eh beh, sì, il tempo scorre, ma c'è la partita, io vado a vedere la partita. Ah no, questo è giusto, sì. Eh beh, ma so non che... abbiamo detto della festa della Zanzara. Vabbè, vabbè, la festa della... bravo, hai fatto bene ad accennarlo, perché adesso lentamente informeremo i nostri ascoltatori. Ci sarà una festa della Zanzara. Aperta a tutti gli ascoltatori. No, su questo non lo so, qui è sicuramente, non lo sappiamo, sicuramente aperta a tutti gli ascoltatori. Però ci sarà una festa. Con discernimento, cum ratio, come dire, cum ratio. Cum grano salis. A domani 18:30, ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.